Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. .800240024. Buonasera cari ascoltatori, il numero verde per intervenire in diretta, cominciate a prenotare i vostri interventi. Eccoci qua di nuovo, si può fare l'attualità anche d'estate, 18, 20 e 30 è questo l'orario, con me Alessio Maurizi, abbiamo anche Carlo Gabardini. Sì, per signori, la terza eccomi qua. Settimana. Buonasera a tutti, sono molto emozionato, sono alla terza settimana di stage e niente, sono contento, grazie e ringrazio tutti. Ricordiamo, autore teatrale, autore comico, attore, tra l'altro sta girando un film, l'altra settimana eri un po' fuori sede. Ero a Luino, sì, a girare un film, ecco, con Giulio Base. Tante cose, Camera Caffè, tra l'altro una interpretazione anche del film Si può fare. È vero. E quindi ah, questa giusto, è una oggi è lunedì, siamo sì, al giusto riassunto. Facciamo un po' riassunto, sì, per chi si è perso le puntate precedenti, che per mi spiegare emoziono, chi mi siamo, imbarazzo, cosa facciamo, dove andiamo. E siamo sempre con Riccardo Buccero in redazione, Barbara Bianchi, Roberto Scaltritti in regia. Oggi lunedì cominciamo con i titoli di Sky TG24. Trovata cadavere nell'auto dell'ex fidanzato, l'uomo fermato a Verona era già stato denunciato per stalking. Aggredita e sfigurata con l'acido nell'ospedale di Genova dove lavora, si indaga sul movente passionale. Recuperato il corpo di uno dei tre ragazzini marocchini scomparsi nell'Adige, in due si erano tuffati per aiutare l'amico in difficoltà. Spending review di Palazzo Chigi, Letta annuncia tagli alle auto blu e voli di Stato e più fondi alla protezione civile. Sentenza Mediaset per il presidente della giunta per le elezioni, Berlusconi è ineleggibile anche con voto anticipato. E nuovo record del debito pubblico, a giugno tocca quota 2.075 miliardi, lo spread è ai minimi da due anni. E giallo sulla sorte del padre gesuita Paolo Dall'Oglio, per un sito arabo sarebbe morto ma la Farnesina non conferma. Fredelli punta su Balotelli per l'amichevole con l'Argentina, anche Messi a Roma per l'incontro con Papa Francesco. Gioco, l'antiatore si armò, cominciarono le piogge di fuoco, per molti l'aereo si usa così, volare sì, volare no, viva l'aereo. La decisione importante di oggi è quella del taglio dei voli di Stato, della vendita di 3 dei 10 aerei della flotta di Stato e dell'utilizzo di quelle risorse per rendere operativa, più operativa, e rafforzare invece la flotta antincendio che, ripeto, era stata pesantemente tagliata nelle ultime leggi finanziarie. Per riformare l'IMU, cambiarlo e evitare che gli italiani paghino la rata di settembre c'è bisogno di un governo e di un Parlamento. Se non ci fosse un governo e un Parlamento gli italiani pagherebbero la rata di settembre, quella di dicembre, eccetera. Enrico Letta in maniche di camicia stile Obama, perché questo è lo stile, diciamo, estivo, emergenziale anche, no? Cioè lo stile in maniche di camicia o, sì, o lo stile risparmioso? Tutte e due, no? Ah, sicuramente perfetto. Lo stile in maniche di camicia, che è questo stile informale nel quale ci si fa vedere nelle situazioni un po' di emergenza. Adesso poi è estate, non è che c'è una vera emergenza. Fa sempre piacere questi, quando un governo risparmia fa sempre piacere. Beh, devo dire che tre aerei, ecco, sembra un po' come per dire, per spegnere gli incendi in Sardegna, Alfano ed io abbiamo deciso di non bere acqua tutto il 15 d'agosto, ma solo vino. Va bene, va bene, fa sempre piacere bene che tutto, uno risparmia. Però, ecco, però in effetti, vabbè, 50 milioni di euro risparmiati. Tra l'altro li hanno venduti proprio a un cazzo, si può dire. Cioè, hanno venduto tre aerei a 50 milioni. Bisogna vedere che aerei erano. E tra l'altro li hanno venduti adesso, li hanno venduti oggi? Oggi erano su eBay. Chissà chi ha comprato gli aerei di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarebbe interessante. Sarebbe interessante sapere se sapevano che erano quelli di Stato di Letta. In Azerbaigian, forse. Li daranno indietro. Che è appena tornato, dove ha fatto un accordo di Stato, magari gli ha dato quello. Forse è andato in aereo ed è tornato in moto. E gliene ha lasciati lì. Forse è così. Viva l'aereo, se partirò. Vabbè, si sono fatte delle polemiche, delle discussioni sul fatto che questo era il governo dei rinvii. L'IMU intanto è rinviata a settembre, però abbiamo tagliato 3 aerei di Stato e il 25% delle auto blu, però quelle di Palazzo Chigi, complessive, quello sarebbe stato troppo complicato. Quelle che dipendevano da Letta e Alfano, cioè quelle che potevano controllarle, loro le hanno tagliate. Quelle altre degli altri ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, quelle da 60 a 44 ho letto, vedi? Inizio anche a leggere le notizie. 60, da 60 auto a 44 auto. Sono tante 60 auto per il Palazzo Chigi, cioè, boh, questo io non me ne intendo. No, vabbè, se, beh, se ma è per tutte le delegazioni. 15 ministri, cioè 60 auto, 4 per ministro. Che altro dire su questo? Poi vedremo più avanti. Sentiamo invece il giudizio duro di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, sul suo partito. Sentiamo, sul PD. In Italia vige la regola della selezione in negativo. Tutti quelli che voi trovate nei gruppi dirigenti nazionali sono selezionati sulla base di due cose: la produzione di parole e l'aggregazione a un carro correntizio. Su 1000 esponenti politici nazionali ne troverete uno su 1000 che sia un uomo libero. Lui, De Luca, è quello lì. Non ho capito, me lo devi spiegare. De Luca, che non è nuovo a esternazioni anche dure nei confronti del suo partito, lui si giudica un outsider dentro il PD, non so più nemmeno bene se ne fa parte oppure no. Ah. Ha detto che i dirigenti dei partiti, quindi compreso il suo, sono selezionati sulla base del fatto di essere capi popolo, capi corrente, e di produrre solo chiacchiere, parole. È un giudizio che penso l'80% degli italiani, per stare basso, condivide. Tu, per esempio, lo condividi? No. Ma non lo so, è un po' duro. Lo so, nel senso, cosa vuol dire essere capo popolo? Nel senso che vuol dire portare voti. Capi corrente. Sì, ma esatto. Quindi portano voti più che chiacchiere. Portano tutte e due, sì, le chiacchiere con le quali poi prendono i voti. Però dice poi sui fatti stiamo a zero. Questo dice De Luca, Va bene. Sentiamo anche, vogliamo sentirlo, Baldelli del PDL, che fa l'imitazione di Laura Boldrini. L'altro giorno, l'altra settimana, è finito sui giornali. Qualcuno si è scandalizzato per l'imitazione della Presidente della Camera, non credo ci sia niente da cui scandalizzarsi, l'imitazione le fanno tutti. Certo, è stata vista dentro la Camera da alcuni esponenti del PDL che si sono sbellicati. Sentiamo un po' come è venuta questa imitazione. Nulla. Ro. Dota. Baldelli, Bianca. Vabbè, qua stava impersonificando, sì, assolutamente. Ma però mi sembra che fosse più una seduta spiritica, no, come parlava. Era la lettura dei nomi dei candidati Presidente della Repubblica, Bianca. Quando abbiamo vissuto quella scena, sì, in cui la Boldrini aveva quel tono un po' così, un po' stanco, un po' cadente, provato, eccetera. Poi forse ci sono altre parti più divertenti, a dire la verità questa non è che faccia molto ridere, però si annuncia come un'imitazione divertente. Sulla Boldrini c'è anche la polemica di Beppe Grillo, che sul suo blog oggi la attacca e scrive a proposito del fatto che sono state riconvocate le Camere per la questione del femminicidio, che deve avere un passaggio all'interno della Camera. Dice Grillo: la Boldrini usa la Camera come una TV commerciale, confondendo il mero adempimento della Camera con i veri e propri lavori del Parlamento. È chiaro, scrive Grillo, che per Laura Boldrini o chi per essa, la Camera è una semplice TV commerciale attraverso la quale migliorare la propria immagine. Cioè, la Boldrini, che ha convocato le Camere, avrebbe fatto questo solo per far vedere che c'è dell'efficienza, che si lavora e che non si va in vacanza. Grillo come sta sulla legge del femminicidio? Nel senso che è contrario lui? Ma non credo che sia questo il punto. Non è quello. No. È solo che fa propaganda. Lui dice che la Boldrini ha convocato le Camere, che in realtà non sono convocate, ha ragione, perché ci sarà una presenza, credo, del Presidente della Commissione, nella quale la legge deve essere incardinata, che ratificherà questo passaggio, quindi non è la Camera convocata, e quindi c'è un po' di enfasi su questa cosa della Boldrini, che avrebbe anticipato la fine delle vacanze. Un tema popolare tra i cittadini e gli ascoltatori, si dice che i parlamentari italiani fanno sono i meno efficienti, eccetera. Invece ho scoperto adesso, se riusciamo a ritrovarlo questo articolo, che io non trovo, magari qualche ascoltatore l'ha letto con me, che c'era un bel articolo qualche giorno fa che riepilogava le vacanze dei parlamenti di tutti i paesi europei. L'Italia è quella dove i parlamentari fanno meno vacanze. La Germania è in vacanza addirittura da un mese, in Francia da metà luglio e via discorrendo. Qualcuno potrebbe dire perché i nostri fanno vacanza anche quando lavorano, diciamo, quando timbrano il cartellino. Questo potrebbe essere un punto di vista. I maligni. And now, the good news! Antonio, maestro elementare in pensione, ha comprato un'ape usata, l'ha dipinta di blu, l'ha riempita di libri e ha iniziato a girare i paesini della Basilicata per trasmettere ai più piccoli la passione per la lettura. L'ha chiamata Biblio Motocarro, la prima biblioteca su tre ruote. E ricordiamo bene bene anche i nostri contatti, abbiamo detto il numero verde, tra poco cominciamo a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori, 824 0024, c'è l'SMS al 349 238 6666, poi Facebook e Twitter, l'account di Twitter del programma, e si può fare 24. Poi ci sono quello di Carlo Gabardini, che è Carlo Gabardini, Carlo Gabardini, e il mio è Ale Maurizi. Oh, a questo punto cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla situazione dell'onorevole Silvio Berlusconi, perché si sono lette molte cose sui giornali sulla incandidabilità e noi abbiamo convocato uno che dovrebbe darci un parere, magari non del tutto non di parte, perché è un ex, credo, onorevole del PD, Stefano Ceccanti, buonasera. Buonasera. Lei non è onorevole attualmente? No, no, io sono ritornato all'università. Però è stato onorevole nella scorsa legislatura? Sì, esattamente. Ho fatto il relatore della legge. Bravo. Per cui scaturiscono le norme sull'incandidabilità. Lei è un costituzionalista, quindi diciamo sì, un esperto di legge, ed ha fatto il relatore per questa legge Severino, che tra l'altro era stata presentata con una certa attenzione anche da parte della stampa durante la fine della legislatura del governo Monti. Però questo aspetto sull'incandidabilità, quando si parlava della sentenza Mediaset a proposito di Berlusconi, era stato un po' trascurato, si parlava dell'interdizione. E invece questa legge qua del 2012 che cosa prevede? Dunque, dobbiamo distinguere due casi. Il primo caso è tu sei già in Parlamento ma diventi incandidabile perché c'è una sentenza di condanna superiore a 2 anni. In quel caso tu sei comunque incandidabile per un periodo di 6 anni. Siccome tu sei già dentro la Camera o sì, dentro il Senato, deve votare la Giunta e poi deve votare l'Aula per farti decadere. Ma la legge costruisce questa votazione come una sorta di presa d'atto di una sentenza che è stata data di condanna. Questo è il caso della cosiddetta incandidabilità sopravvenuta, cioè ti capita una sentenza quando tu sei già dentro le Camere. C'è invece poi l'altro caso. Ecco, però scusi un attimo, questo sì, cosa prego, qua già riguarda Silvio Berlusconi in quanto tale, perché lui è già senatore e c'è una condanna che è intervenuta. Esattamente, quindi ora la Giunta ha fissato per settembre sì, la sua prima riunione, essendo la prima applicazione della legge, è ovvio che ci sia dei tempi un pochino più larghi per sentire anche la difesa che cosa ne pensa e così via, però a me il testo della legge sembra estremamente chiaro, dopodiché i parlamentari della Giunta in un primo sì, momento e in secondo momento l'intera Aula decideranno, l'Aula eventualmente anche a voto segreto, che a maggioranza che orientamento prendere. E qui poi subentreranno anche delle valutazioni politiche da parte dei partiti che dovranno dare una indicazione di voto, anche se forse il voto potrebbe essere segreto, è anche questa un'ipotesi? Sì, il voto è segreto, però il punto è che questo voto per la legge ha il significato sostanzialmente di una presa d'atto. Di per sé bisognerebbe votare sì, cioè nel senso che registrare che ci sono le condizioni indicate dalla legge. Ma per esempio alcuni esponenti del PDL hanno detto che potrebbero uscire dall'aula e non votare per non assumersi la responsabilità di escludere Berlusconi, diciamo, dal Parlamento, non voterebbero no, ecco, quindi sarebbe già una posizione di compromesso, però tutto è possibile. In quel caso poi cosa succederebbe, volendo approfondire anche questo aspetto? Mettiamo che ci sia un voto negativo, ci sarebbe poi un conflitto di attribuzione, di competenze? Ecco, questo, siccome trattandosi del primo caso di applicazione non della legge, qui andiamo. Ecco, mentre io mi sentirei onestamente di dire che sulla base della legge i parlamentari dovrebbero votare la decadenza, a prescindere dal periodo di cui fanno sì, parte, se il Parlamento invece votasse no, non so cosa non si sa dove si va a finire. A me sembra improbabile poter fare un conflitto di attribuzione, perché in genere le delibere che prendono le Camere, giuste o sbagliate, sulla base di questa verifica dei poteri fatte sulla base dell'articolo 66, sin qui, anche se non è mai capitato questo caso qui perché la legge è nuova, però sin qui sono state sempre ritenute inappellabili. Questo è il Quindi punto. Non ci sarebbe conflitto. Però c'è un'altra questione, perché questo è quello che abbiamo descritto, è quello che accadrà adesso che Berlusconi è stato eletto, è senatore e quindi potrebbe decadere in questa legislatura. Però siccome molti prevedono una fine anticipata della legislatura, ci si chiede, Berlusconi, qualora si andasse a votare nel 2014, sarebbe candidabile? E qui la risposta del relatore, cioè lei, alla legge Severino che prevede proprio, come diceva lei, questo, qual è la risposta? Sarebbe candidabile o no? Guardi, la risposta è proprio scritta in maniera chiarissima nell'articolo 2 del decreto legislativo che attua la delega contenuta nella legge Severino. Cosa dice questo articolo? Dice che se qualcuno prova a inserire nelle liste una persona che è incandidabile, quando arriva l'elenco della lista ai magistrati di questi organi che hanno la competenza esclusiva sulla regolarità delle liste per elezioni politiche, che si chiamano ufficio elettorale, i magistrati sono obbligati a cancellare il suo nome dalla lista. Se il candidato o qualcuno per lui vuol fare ricorso, fa ricorso, e un altro organo, sempre di magistrati, che si chiama ufficio elettorale, stabilisce immediatamente se è incandidabile oppure no. Cioè, se quindi conferma, non si creerebbe quella situazione per cui qualcuno paventava, credo tra gli altri un altro costituzionalista, Capotosti, l'elezione prima di Berlusconi, cioè l'iscrizione nella lista, l'elezione, e poi sarebbe dopo la Camera a votare il fatto che non era candidabile, che è una situazione paradossale, però veniva descritta come un'ipotesi. No, perché questa descrizione corrisponde a un'altra cosa che si chiama ineleggibilità. Quando la legge dice che sei ineleggibile, tu in lista ci puoi andare e spetta poi alla Camera, una volta che sei arrivato alla Camera di appartenenza, decidere se effettivamente è ineleggibile oppure no. Qui non stiamo parlando di ineleggibilità, stiamo parlando di incandidabilità. Quindi tu devi proprio essere cancellato dalle liste e alla Camera di appartenenza non ci arrivi proprio. Ma questo è scritto in maniera chiarissima in questo articolo 2 del decreto legislativo. Che tra l'altro è stato votato anche dal PDL, ricordiamolo. Chi è che ha sostenuto questa legge nella scorsa legislatura? L'ha sostenuta a tutti i governi che sostenevano il governo Monti, è stata sostenuta la legge che conteneva la delega, è stato anche dato un parere positivo invitando il governo a fare quanto prima, a mandare in gazzetta ufficiale quanto prima perché il decreto diventasse operativo per le scorse elezioni politiche, quindi era una materia assolutamente consensuale tra le forze politiche del governo Monti, compreso il PDL. L'altra cosa che è stata detta è che la legge Severino potrebbe non applicarsi a reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge, questo è stato detto. Allora, qui ci sono alcuni studiosi di diritto penale che applicano gli schemi del diritto penale al diritto elettorale. Quando siamo nel diritto penale, cioè tu non puoi essere condannato per un reato che non è previsto quando tu commetti l'atto, cioè vale un principio di irretroattività assoluta. Questo è il diritto penale. Nel diritto elettorale, invece, sulla base anche dell'articolo 51 della Costituzione, il legislatore, se vuole, mette dei limiti al diritto di elettorato passivo. Quindi ti può mettere dei limiti anche per vicende che risalgono a periodi precedenti. Non c'è questo vincolo assoluto di retroattività. In questo caso la legge fu fatta esattamente per togliere dal Parlamento persone ritenute socialmente pericolose. L'incandidabilità già c'era per le elezioni amministrative, era un po' paradossale per le elezioni amministrative dove puoi fare meno danni, fosse prevista non anche per le politiche, che fosse ritenuta pacificamente applicabile, dimostrato dal fatto che ci fu la corsa a mandare il decreto in gazzetta, uscì il decreto in gazzetta qualche giorno prima della chiusura delle liste. Era ovvio che fosse applicabile a fatti precedenti, perché altrimenti non sarebbe mai stato applicabile a nessuno per le scorse elezioni politiche, non avrebbe avuto senso chiedere di mandare subito in gazzetta il decreto. Chiaro anche questo. Senta, ma invece i sostenitori di Berlusconi, il PDL, chiede, si usa questa espressione, la agibilità politica del suo leader. Noi abbiamo chiesto, diciamo anche perché è giusto ricordarlo, abbiamo chiesto anche a molti esponenti del PDL cosa intendono per questo, però non ci si sbottona più di tanto, perché inizialmente si parlava della grazia, però poi Napolitano informalmente ha fatto capire che la grazia non è possibile per una serie di ragioni. Ci sono la possibilità dell'amnistia, dell'indulto. Da costituzionalista, quali sono le strade percorribili per Berlusconi per essere ancora far parte ancora della politica attivamente? Ma guardi, in astratto la strada sarebbe anzitutto quella di modificare la legge Severino, il decreto legislativo di cui le ho parlato, che sono chiarissimi, che fin tanto restano in vigore quelli, sì, che però sono stati votati anche dal PDL, non c'è nessun margine alla possibilità di Berlusconi, cioè può guadagnare qualche mese per non essere dichiarato decaduto da questo Parlamento, ma la sorte della sua decadenza secondo me è segnata, e comunque se per caso ci fosse un'elezione anticipata lui non è candidabile. Quindi nemmeno con l'amnistia, nemmeno con la grazia, perché la grazia copre lo sconto della condanna, ma non è che copre questa sanzione ulteriore che deriva dalla legge Severino in maniera autonoma. Però ecco, che cosa non può fare Berlusconi? Non può essere eletto, ma non può neanche essere ministro, capo del governo? Non può neanche essere membro del governo, perché su questo c'è l'articolo 6 che sì, proibisce assolutamente a coloro che sono in situazione di incandidabilità per le Camere di fare anche membro del governo. Ecco, un'altra cosa, l'intervista del giudice Esposito al Mattino, che è stata criticata da molti e che sulla quale il CSM ha aperto un fascicolo nei confronti del giudice Esposito, può avere questa qualche conseguenza anche in questa vicenda? Io spero che abbia qualche conseguenza sul giudice Esposito, cioè nel senso che io mi auguro una sanzione esemplare, perché secondo lei ha fatto una cavolata a fare questa intervista, non andava fatta. È una cosa gravissima, cioè, voglio dire, già in condizioni normali un magistrato dovrebbe parlare solo attraverso le motivazioni della sentenza e non con interviste peraltro che escono prima della motivazione della sentenza, ma tanto più in un caso come questo che palesemente era sulle prime pagine dei giornali, che provoca indirettamente tensione politica, sarebbe bastato un minimo di accortezza di una persona normale per rendersi conto che questo è un comportamento sbagliato, quindi ci sono tutti gli elementi perché si provveda a una sanzione disciplinare esemplare. Detto questo, la sentenza c'è e quindi... Però questa cosa non indebolisce un po' anche la forza della sentenza e diciamo anche la credibilità, visto che Berlusconi si dice di essere un perseguitato da questa magistratura e abbiamo un giudice che, come dice anche lei, che è del PD addirittura, ammette l'assurdità del comportamento, diciamo, post sentenza di questo giudice. Ma secondo me noi dobbiamo tenere distinti due questioni. Qui c'è un collegio di 5 magistrati, non solo di uno, che ha ritenuto la sentenza giusta, e questo è una cosa. Poi c'è un comportamento sbagliato di uno di questi 5 giudici e quel comportamento va punito come tale. Dal punto di vista giuridico non c'è nessun altro ragionamento da fare, dal punto di vista politico è ovvio che questo, dentro una campagna un po' vittimistica che può essere orchestrata, può essere un argomento, però appunto hanno deciso i 5, non ha deciso solo lui. Ma adesso secondo lei il giudice Esposito che conseguenze dovrebbe avere? Cioè dovrebbe essere trasferito, dovrebbe essere tolto da quell'incarico? Guardi, non so, perché bisogna vedere quali sono i parametri che usano normalmente al CSM per dare le sanzioni disciplinari. Immagino che ci siano dei parametri, immagino che per i casi più gravi ci siano delle sanzioni proporzionate all'errore che è stato fatto, però siccome io non conosco queste decisioni del CSM in materia disciplinare, non me la sentirei dare un parere se ci sono dei precedenti analoghi oppure no. Va bene, grazie a Stefano Ceccanti, buonasera, sì, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra pochissimo. C'era, sì, qualcosa che avresti voluto chiedere, Gabardini? Diciamo, sono stato stupito quando ha detto che una persona normale non avrebbe risposto alle domande, quindi diciamo indirettamente ha detto che Esposito non è una persona normale. Ma Ceccanti, in effetti, sentendo anche un po' la registrazione, viene fuori un po' un quadro di una persona un po' strana, no? Questo non lo so, anche perché direi che l'attacco poi fatto su invece i giornali di andare a sfrucugliare, diciamo che l'aspetto di sfrucugliare, lasciamo perdere lo sfrucugliare, però è vero una cosa che non poteva non sapere che avrebbe creato lui, che aveva firmato quella sentenza bomba, come tu stesso l'hai definita in quei giorni, avrebbe scatenato un inferno. Ma questo sono assolutamente d'accordo, cioè l'opportunità di fare questa intervista non mi è veramente chiara, nel senso che lui non, diciamo che anche il giudice Esposito non poteva non sapere. Avrebbe creato rispondendo a queste domande del mattino. Ottimo. And now the good news. Giada Gaia Cicala è una giovane stilista milanese che si è inventato un marchio di moda con abiti riciclati al 100%. Ecologina. Recupera le stoffe di scarto delle aziende tessili e compone degli abiti fantasiosi che fanno dell'assemblaggio la chiave estetica vincente. Ma non dite che sono quattro stracci. Importante di oggi è quella del taglio dei voli di Stato, della vendita di 3 dei 10 aerei della flotta di Stato e dell'utilizzo di quelle risorse per rendere operativa, più operativa e rafforzare invece la flotta antincendio che, ripeto, era stata pesantemente tagliata nelle ultime leggi finanziarie. Ogni anno d'estate c'è la polemica sul fatto che non ci sono abbastanza Canadair che entrino in azione per spegnere gli incendi nelle varie zone d'Italia. Abbiamo visto oggi un Enrico Letta in maniche di camicia un po' emergenziale, abbiamo detto stile Obama, darci questa notizia. Allora noi, cari ascoltatori, vogliamo chiedervi, dobbiamo crederci? Dobbiamo dare un bel voto a Enrico Letta per avere fatto questo taglio? 3 aerei su 10? Beh, la percentuale non è male, il 30%. Certo, l'entità di questo taglio non è che sia una cosa da strapparsi i capelli, anche chi ne ha pochi, insomma. Però vi chiediamo questo: 800 24 00 24, bella mossa questa del governo d'agosto, oppure insomma un po' di propaganda, un po' di fuffa in attesa per esempio della riforma dell'IMU, che quella sì è stata rimandata. Leggo un tweet di Christian Dodo 1 che dice: Letta, tagliate del 25% le auto blu, ora sono tutte decapottabili. Un po' di ironia su Twitter, sul web. Vediamo se poi montano un po' i commenti su questa vicenda qua. Sentiamo anche Umberto Bossi a proposito dello Ius Soli, insomma della battaglia ormai ingaggiata col ministro dell'integrazione Cecil Chiang, che dice: guardate che le decisioni su questa materia non le prende lei, ma le prende Alfano. Ma secondo lei il ministro Chiang è un ministro inutile? Per adesso non ha ancora agito. D'altra parte bisogna ricordare che chi fa le leggi sull'immigrazione non è il ministro Chiang, può essere solo Angelino Alfano, il ministro dell'interno. Il ministro Chiang può parlare, ma chi può fare le cose davvero è Alfano. In aula gli ho chiesto se era sua intenzione a modificare, cancellare la Bossi fine, ma no. Non ha mica tutti i torti Bossi, chissà se le decisioni su questo spettano proprio anche per competenze al ministro degli interni Alfano oppure no. Abbiamo un seguito su Twitter. Sì, abbiamo un tweet di Renato Brunetta che twitta: governo, quello bravo Renato Letta, Brunetta, proprio lui, bravo Letta su aerei di Stato, su auto blu però riprende dossier Berlusconi, quindi ci tiene a precisare che era un'idea del precedente premier. Beh, d'altra parte è al governo del precedente, di due prima, è al governo anche Brunetta, cioè assolutamente, quindi attualmente. Per cui insomma c'è una certa continuità d'azione. Benissimo, riprendiamo, anzi iniziamo con gli interventi degli ascoltatori e abbiamo per primo stasera Daniele che ci chiama da Macerata. Daniele, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Io, pronto? Sì, la sentiamo, la sentiamo bene. Ecco, volevo intervenire ho sentito l'onorevole Ciccanti sulla figura del giudice Esposito. Sì. Ma però ci diceva: a pensare male si fa peccato, ma ci si indovina. Ecco, non è che il giudice nella votazione è andato sotto, era un berlusconiano, è andato sotto, e questa è la scialuppa di salvataggio per Berlusconi, perché un magistrato di 70 e oltre anni con un'esperienza alle spalle in una situazione così delicata che faccia un'intervista, nemmeno un ragazzino, insomma, ecco, era... Cioè, qui è il dubbio del complotto, nel senso ipotesi, una mia ipotesi, che Esposito abbia fatto un favore a Berlusconi. Non salvataggio, una giambella di salvataggio per tentare l'ultima carta a vedere se... Ha sicuramente aiutato Giù Berlusconi, diciamo che la magistratura, in questo senso. Beh certo, non ci ha fatto una bella figura. L'ha detto anche Ceccanti, che è del PD, che questa appunto, qui è una figuraccia che terribile. Noi italiani siamo presi in giro dalla mattina alla sera, da destra, a sinistra, a centro, cioè ci raccontano anche la storia degli aerei o la storia delle auto blu, tutta una presa in giro. Visto che ci prendono in giro, seguitano ancora. Va bene, grazie Daniele. Grazie. Andiamo a Ciro, che ci chiama invece dalla provincia di Frosinone. Ciro, buonasera, benvenuto. Buonasera, salve, buonasera. Eccoci qua. Io volevo intervenire per dire questo. Noi costantemente veniamo presi in giro da tutti. Oggi il presidente Letta dice che sono stati eliminati 3 aerei. Il 30%, sì. E gli altri 7 chi li utilizza, visto che solo il Presidente della Repubblica e pochi altri eletti possono prenderle? Questa è la prima però quesito. Ciro, scusi, qualche aereo servirà pure. No, vabbè, ma poi dobbiamo focalizzarci su quello che è stato fatto e valutare se quella è una cosa fatta bene o fatta male. Se, come dice lei, magari è troppo poco, oppure se è fumo negli occhi, 3 aerei su 10. Però, insomma, adesso... Assolutamente sì. Poi vorrei porre una domanda a voi giornalisti. Per quale motivo non rivolgete una domanda al Presidente Letta, al Governo? Molto semplice. Quando è che porta a termine le promesse che lei ha fatto quando è stata nominata ed è stato dato il mandato? Per esempio, quali promesse? Prima promessa, il taglio della spesa pubblica. Perché questo che è stato fatto oggi non è un taglio della spesa pubblica, questo è un taglio ridicolo delle spese. Delle spesucce. Ok, seconda domanda, quando è che togliete l'IMU, visto che avete un partito che lo vuole togliere, senza di questo non andrà avanti con il governo? L'ha detto che a settembre, entro settembre dovrebbe in teoria prendere una decisione. Ci sta provando, diciamo, a eliminare l'IMU, si è anche accorto che se la elimina poi dopo non ci sono i soldi per fare niente. E numero 3, quando è che fa la legge elettorale? Quando è che mettiamo mano alla legge elettorale? Ancora siamo ai piedi di Pilato. Guardi, lei Ciro si aggiunge alla lista di tante persone che vorrebbero fare queste domande a Letta, perché è dall'inizio che si parla dell'IMU e non si sa quale sarà la soluzione, è da Adamo ed Eva che si parla della legge elettorale e non è stato incardinato un percorso che prevede mesi e mesi di discussioni. Però lui è a Palazzo Chigi, io tutto sono agosto, d'accordo si tutta può la vita con Ciro. Grazie Ciro, voleva aggiungere qualcos'altro? Grazie, no, le sue 3 domande le ha fatte, benissimo. Andiamo a Taranto, c'è Aurelio, buonasera. Buonasera. Prego. Pronto? Allora, intanto vorrei dire che ho inventato una bellissima barzelletta. Allora, un bambino di 6 anni... Bellissima, ce la faccia dire a noi che è bellissima. Prego, la vuole dire? Sì, ma te lo dico, te la spiego subito. Sì. Allora, intanto il bambino va a scuola, il primo giorno la maestra gli dice... Svolgimento tema, il cancro dell'Italia. Il bambino in 5 minuti scrive: il cancro dell'Italia sono quei maiali dei politici, punto, glielo consegna. La maestra rimane rabbrividita, come mai un bambino di 6 anni ha capito che i maiali dei politici sono il cancro dell'Italia? Ma gli italiani grandi quando cazzo lo capiranno che questi ci stanno portando all'abissale? Aurelio, scusa, ma la barzelletta è finita? Dov'era la barzelletta? O hai in mezzo un pezzo così... descrittivo? No, è questo che le volevo dire, prima di ogni cosa. Noi speravamo di ridere un po', ma lei... Ma qual è la barzelletta? Un bambino che scrive... No, non c'era la barzelletta, Cavani, no. Era un modo di dire. La maestra gli fa scrivere... L'ascoltatore gioca tema, con le parole. Svolgimento tema. Sì. Mi spiego? Svolgimento tema, il cancro dell'Italia. Sono quei maiali dei politici. Fin qua ci siamo. Ma non gliela fare dire cosa. Perché già è stata. Fin qua ci siamo, ma non c'è la battuta. Non c'è la battuta. Aurelio, lei non voleva neanche fare una battuta, ha esordito così dicendo barzelletta, però. È un'invettiva, diciamo, non è una barzelletta, ma va bene. Va bene. Poi andiamo oltre. Gli italiani non hanno capito che il debito che hanno creato i politici, fino alla fine la dobbiamo pagare sempre noi, la plebaglia. Però ancora c'è gente che crede nella politica, o destra, sì, io sono apolitico, io li frullerei tutti, destra e sinistra, perché stiamo andando allo sfascio. Va bene, Aurelio. E hanno rovinato minimo 10 generazioni, questo è il concetto. E ancora cose c'è dette, ma cosa vuol dire io volte. Sono apolitico? E quindi cosa succede quando c'è chi governa questo paese? Te lo faccio governare io se vengo sopra, sai come? No. Diritti e doveri. Allora vuoi fare il politico a 1200 euro al mese come un operaio, te ne vai al lavoro. Lei ha votato, lei ha votato 5 Stelle? Una... Aurelio, ha votato 5 Stelle? Lei ha votato 5 Stelle? No, quello è un altro pupazzo di merda, sono apolitico, non vota nessuno io. Però Aurelio, lei lo sa che quando non vota nessuno implicitamente appoggia quelli che prendono, che hanno già preso più voti. E quindi lei è complice di quelle persone di merda, come dice lei. No, mi ascolti, ci vuole ancora un po' di tempo che gli italiani capiscono che non dobbiamo votare, ma dobbiamo andare tutti a Roma a buttarli giù. Questa è un'altra, è un'altra ipotesi. Il concetto è semplice, vedi questo Letta, questo sta prendendo solamente pubblicità per farsi vedere bello, ma io non sento che un'azienda sta funzionando. Poi le dico anche un'altra cosa, l'Italia, Marina, Esercito, Polizia, Carabinieri, Finanza, Montecitorio, Senatori, sa da cosa si campano? Da tutte le aziende italiane, ecco perché le aziende stanno... Va bene Aurelio, mi pare che ne abbiamo dette abbastanza di luoghi comuni, qualcosa anche di condivisibile, però se andiamo avanti così non andiamo da nessuna parte. Aurelio, è ancora lì? Sì, sono qui. Ma lei che non le va bene il nome, l'ultima volta che ne so, che ha fatto una manifestazione per qualcosa, che è sceso in piazza per gridare la sua indignazione, quando è stata? Ma Polo, sono solo ancora, mi spiego? È solo. Perché se lei sta lì nel suo angolo a riempirsi di livore, allora non è che sia una cosa molto produttiva. Io esterno tanto le persone. Vabbè. Però sa che cose ancora ce li sa, noi ci servono quelli che esternano a questo programma qua, perché viviamo dei vostri interventi. Quindi quello che doveva dire l'ha detto. Allora, i politici che cosa hanno fatto? Basta. Cosa hanno fatto i politici l'ha già detto. Grazie Aurelio, grazie. Non andiamo oltre perché diventa ripetitivo. Gerry da Torino, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. A me la questione di Esposito mi ricorda quella faccenda del dito e la luna. Tutti quanti a guardare il dito e la luna non la guarda nessuno. Se ci sono attaccati con Esposito, che indubbiamente avrà sbagliato, deve essere più riservato, a parte il fatto che parlava con un amico, bel amico che c'aveva. No, parlava con un giornalista, con un giornalista del Mattino, che poi fosse anche amico. Ma che si conoscevano da 30 anni, insomma. L'ha fregato, questo amico l'ha fregato. E gli ha fatto un bel piattino, ma non voglio parlare di Esposito, io voglio parlare di tutti quelli che condannano Esposito come se, cioè, nessuno pensa a quello che c'ha dietro Berlusconi. Questo sono 20 anni che ha a che fare con la giustizia, ma poi il teorema ce l'hanno con lui, ma non ha mai spiegato perché i magistrati ce la dovrebbero avere con lui e non per esempio con Del Vecchio, che è più ricco di lui. Oh no. And now the good news. Per il secondo anno il comune di Capannori, in provincia di Lucca, ha adottato il bilancio partecipativo. I cittadini sono chiamati a scegliere quali opere pubbliche realizzare con una cifra di quasi 500.000 euro. E quando si tratta di scegliere, i cittadini non hanno dubbi: scuola e ambiente. Unica controindicazione: al bar con gli amici non ci si potrà più lamentare con il sindaco. Oh, ci ha raggiunto un altro ospite e naturalmente per le nostre regole di ingaggio, Gabardini, mi devo tacere, giusto? Assisti e poi se ascolto, mai ti segni le domande le facciamo dopo. A dopo. A Vincenzo Branà, presidente dell'Arcigay bolognese Il Cassero. Buonasera Branà. Buonasera, bentrovati. Bentrovato a lei. Allora, la legge sull'omofobia è stata rimandata. A settembre si dice che sono questioni su cui bisogna ancora riflettere, è stato detto anche dall'ex ministro Carfagna, che pure ha sostenuto questo percorso, e soprattutto nel centrodestra, ma non solo credo, c'è chi teme che con questa legge si possa inserire una sorta di reato d'opinione, cioè della serie che io non posso più dire sono contrario per esempio al matrimonio tra gli omosessuali, perché diventerebbe un reato. È per questo secondo voi che è stata rinviata la... La legge è stata rinviata in realtà per questo, per una deriva ideologica, tutta ideologica e tutta di correnti, che è tipica un po' della politica italiana. Ma fatto un discorso complessivo, innanzitutto prenderei molto con le molle le dichiarazioni dell'ex ministro Carfagna, perché ricordiamoci che la Carfagna era quella che scrisse a quattro mani con la Concia la proposta di legge contro l'omofobia, per poi arrivare ad astenersi in aula su quella proposta di legge. Quindi attenzione al gioco delle parti che si gioca in Parlamento su questi temi. C'è però un ragionamento da fare: l'omofobia non si sconfigge con una legge penale, che è la Reale Mancino. La Reale Mancino esiste da 20 anni nel nostro ordinamento e riguarda diversi gruppi bersaglio di discriminazione o di violenza. Perché allora, chiariamo cosa prevede esatto questa legge. Cioè prevede un aggravante nei casi di violenza o di discriminazione per crimini d'odio, cioè per persone che vengono, che commettono violenza nei confronti di uno straniero perché è straniero, nei confronti di un disabile perché è disabile, eccetera, eccetera. Allora, se nel 2013 ancora la ministra Kyenge riceve delle banane, vuol dire, nel lancio di banane, vuol dire che quella legge è già inefficace nel contenere un fenomeno. Cosa serve però estendere la Reale Mancino ai reati di omofobia e transfobia? Serve a stilare l'elenco di tutti quei portatori di diversità che nel nostro paese sono oggetto di violenza o discriminazione. Una volta stilato questo elenco, la cosa più interessante non è la legge contro l'omofobia, saranno i provvedimenti che da quel momento in poi nasceranno, perché fanno bene a sottolinearlo molte voci che si sono espresse in questi giorni sui giornali. Il problema è la roadmap successiva, cioè quindi la legge in sé per sé secondo voi non serve, per esempio il caso del 14enne romano che ha lasciato quel biglietto prima di suicidarsi, assolutamente no, una legge come questa non sarebbe stato, guarda, le leggi non sarebbe servito a contrastare questa cosa qua. Le leggi fanno cultura, quindi tutte le leggi che stabiliscono un'uguaglianza contaminano il paese in cui vengono applicate, questo da un punto di vista. Ma attenzione, per intervenire nei luoghi di educazione, di sport, di crescita, di socializzazione, servono interventi che vanno fuori dal codice penale, sono altri tipi di interventi. E già il ragionamento sul femminicidio in Italia ce lo sta mostrando, ma ancora in maniera del tutto incompleta, cioè riusciamo ancora a esprimere solo degli intendimenti che hanno a che fare con le sanzioni o col codice penale. Bisogna fare operazioni che intervengono sul tessuto culturale. Allora, la Reale Mancino è sì innanzitutto una legge che serve a esprimere una tutela su dei gruppi, dopodiché esprime una definizione giuridica rispetto alla quale tutto è ancora da scrivere, tutto è ancora da costruire. Mi sembra assurdo che in un paese come l'Italia si sia fermi e ingessati su questo dibattito su Reale Mancino. Ripeto, una legge vecchia di 20 anni, nelle democrazie moderne le leggi vecchie di 20 anni si riprendono in mano per modernizzarle, per valutarne i limiti. Qui stiamo ancora estendendo una legge vecchia, non ne stiamo facendo una nuova. Chi sta sposando la causa dei gay? Perché lei prima ha preso le distanze dall'ex ministro Carfagna, adesso però so che voi in polemica con il Partito Democratico non andrete alla festa del PD perché li accusate di troppa timidezza su questi temi. Cioè la lobby gay non è più appannaggio della sinistra? Ma guardi, la lobby gay esisterebbe in un paese in cui ci sono le leggi per i gay, evidentemente non esiste in Italia. Ma il vero problema è che nel Partito Democratico c'è una parte del Partito Democratico che è la vera opposizione a questa legge. La legge arriva in Parlamento non strapazzata tra maggioranza e opposizione, ma strapazzata tra Scalfarotto e Fioroni, che sono tutti e due dello stesso partito. Allora, è necessario se la cantano che e se la suonano, Scalfarotto fa la maggioranza, cioè porta avanti, e Fioroni fa l'opposizione. Allora, la lettera con cui 26 parlamentari hanno comunicato ad Avvenire quel messaggio rasserenante che voleva dire tranquillamente qui i vescovi, voi potete continuare a dire la vostra, vi preghiamo un salvacondotto, è una lettera molto preoccupante dal punto di vista politico, perché quando un parlamentare lavora a un tema come l'omofobia deve tenere presente l'obiettivo di quella legge, che è tutelare le vittime, non creare dei salvacondotti. Allora, questi posizionamenti politici, quando dei deputati del PD sottoscrivono una lettera della PNT, stanno spostando il partito da una parte. Il nostro disappunto è nell'altra parte del partito, che noi sappiamo essere molto più consistente, che però non fa da contrappeso. Cioè in queste aperture pubbliche di dibattito, cioè l'ala più laica del PD, l'ala che più sponsorizza per esempio i diritti dei gay, subisce il predominio dei cattolici, che la sono prova muscolare dei cattolici. Assolutamente, ma questo da sempre. Infatti non ci spieghiamo come un emendamento rivendicato nero su bianco da 15 parlamentari, 15 di numero, diventi l'emendamento del capogruppo e quindi della maggioranza. Ma secondo lei invece, uscendo seguendo la logica dei partiti, gli italiani sono favorevoli per esempio a questa legge e a come la vorreste voi, oppure questi parlamentari inseguono anche una logica di consenso in Italia e voi siete una minoranza e non avete, diciamo, diritto di... No, io non credo che ci sia una logica di consenso rivolta all'opinione pubblica. Io credo che le logiche di consenso e di compiacenza la politica le metta nei confronti dei gruppi di interesse, dei grandi stakeholder, come possono essere il Vaticano, come possono essere vari gruppi di interesse. L'opinione pubblica è molto più avanti. Su temi come l'omofobia sicuramente, ma anche su temi come le unioni civili, come le adozioni, siamo molto più avanti. Allora, il problema dov'è? Che non, la politica non sta parlando ai cittadini. Quando si scrive ad Avvenire si sta parlando ad altre persone, non si sta parlando a chi quella legge la chiede. Io, come presidente di un circolo gay, non ho mai ricevuto una lettera dai parlamentari che mi rassicurano che avrà una legge, non capisco perché la ricevono i vescovi, cioè è questo il nodo, la politica deve tornare. Tornando al discorso del consenso, è chiaro che i vescovi garantiscono una bella fetta di coprono una bella fetta di consenso. Ma guarda, lei che no. Anche io vado a votare, no? Sì. Cioè lei come presidente dell'Arcigay non evidentemente. Anche gli omosessuali votano e pagano le tasse, quindi c'è da tenere molto presente il fatto quindi, che c'è una comunità. Stando così le cose, stando con un PD che non sposa la vostra causa al 100%, dove trovate più ascolto? Altrove, per esempio? Cioè, voglio dire, è più trasversale l'ascolto che voi trovate, anche nel PDL, per esempio? Sì, noi troviamo un ascolto Galan trasversale, questo va detto. Galan si è speso molto, però con un gioco delle parti anche il suo. Siamo sempre nell'ambito di politici che dicono: io sosterrei il matrimonio ma non lo sostengo perché gli altri non vogliono. Ora scusi, io faccio militanza, mi sembra molto strano, io sono sempre sceso in piazza per le cose in cui credevo. Se credevo in un matrimonio gay scendevo in piazza per il matrimonio gay. Mi sembra strano che un politico punti a una cosa. Non è che devono scendere in piazza, hanno i loro modi. No, certo, però se lui promuove una legge, quella sulle unioni omoaffettive, in quello in cui se è convinto del matrimonio faccia la battaglia del matrimonio, non faccia un'altra battaglia, altrimenti sta facendo un'altra battaglia, perché non è un meno, è un'altra cosa. Ma cioè, in questo Parlamento secondo lei quanti saranno le persone omosessuali, dichiarate o non dichiarate? Il 10%. Io glielo dico, guardi, statisticamente secondo me siamo attorno al 10%. Ma tra gli italiani oppure tra i parlamentari ci potrebbe essere un'incidenza anche maggiore secondo lei? Secondo l'alto livello di studio, rispecchia quella della statistica nazionale, ma 10%. Il punto non è numericamente. A me piacerebbe che le leggi sui omosessuali le votassero gli eterosessuali, perché definiscono la civiltà di un paese, non una corsia preferenziale per gay e lesbiche. Cioè il vero punto è proprio questo: siamo un paese che è anche vittima di un'autoreferenzialità politica in cui le donne fanno le battaglie per le donne, gli omosessuali fanno le battaglie per gli omosessuali, eccetera eccetera. Noi abbiamo preso un passo, abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla festa dell'Unità di Bologna, e però già oggi registriamo un dato politico importante, che è un comunicato di tutti i parlamentari del Partito Democratico eletti in questo territorio, in cui ci dicono: noi quella legge la votiamo senza se e senza ma. Ecco, quindi diciamo avete avuto rassicurazioni dal punto di vista del PD, cioè si va ricomponendo la frattura. Altrimenti questo partito vive di un'emorragia costante, perché? Perché è vittima di delle uscite di pochi, ma che valgono come molti. Perché poi, per esempio, uno come Marino, il sindaco di Roma, che ne ha presi di voti, evidentemente, se non diventava sindaco, lui è uno che invece è, diciamo, sulla vostra linea, no? E quindi voi dite... questo è il partito che potrebbe avere anche il consenso. Assolutamente sì, ma io che vivo a Bologna sono convintissimo della posizione assolutamente avanzata del PD bolognese su questi temi. Mi chiedo perché sul piano nazionale questa posizione non pesi e invece salti fuori solo quella del PD cattolico, restauratore, conservatore. No, va bene. Abbiamo capito. Grazie a Vincenzo Branade, l'Arcigay, il cassero di Bologna. E questa era, insomma, la legge sull'omofobia rimandata, la polemica interna della mancata partecipazione alla festa del PD di Bologna, che è una delle più storiche. Certo. Vedo che l'Huffington Post, dopo l'intervista che abbiamo fatto, titola Stefano Ceccanti: Nitto Palma non conosce la legge sull'incandidabilità, Berlusconi non può ricorrere al TAR. Ci ascoltano all'Huffington Post, evidentemente. And now the good news. All'IKEA le coppie gay sono equiparate a quelle sposate. anche i dipendenti omosessuali, presentando il certificato di famiglia, possono usufruire di permessi, incentivi, congedi matrimoniali ed estendere la tutela sanitaria al partner, come montare mobili e smontare i pregiudizi. Titoli del TG3. Ancora violenza sulle donne, a Verona 31enne uccisa, coltellata dall'ex fidanzato e lasciata nell'auto, a Genova donna sfigurata con l'acido. Il Premier torna a garantire, entro il mese arriverà la soluzione sull'IMU, ma i partiti si dividono su cancellazione totale o nuovo sistema progressivo. È sempre polemica sul futuro di Berlusconi, il presidente della giunta decadrà entro ottobre, comunque incandidabile, il PDL ricorreremo al TAR. Piano casa, lo studio del governo, mutui più facili per chi compra e meno tasse per chi affitta, record per il debito pubblico ma spread ai minimi da 2 anni. Letta, abbiamo ridotto aerei ed auto di Stato, le risorse destinate alla lotta agli incendi, la Camera mette in rete i redditi dei dipendenti. Sequestrati alla famiglia Ligresti, beni per 250 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta Fonsai, sigilli ad hotel di lusso. Prime voci sulla morte poi smentite ed altre voci più ottimiste, il gesuita italiano rapito in Siria sarebbe nelle mani di Al-Qaeda. Sembrava l'inizio di un grande servizio, in pochi minuti appena staccati coi piedi da terra, si vola soltanto per fare la guerra e perciò, come dentro ad un sadico gioco, l'aviatore si armò, cominciarono le piogge di fuoco, per molti l'aereo si usa così, volare sì, volare no, viva l'aereo! La decisione importante di oggi è quella del taglio dei voli di Stato, della vendita di 3 dei 10 aerei della flotta di Stato e dell'utilizzo di quelle risorse per rendere operativa, più operativa e rafforzare invece la flotta antincendio che, ripeto, era stata pesantemente tagliata nelle ultime leggi finanziarie. Per riformare l'IMU, cambiarlo e evitare che gli italiani paghino la rata di settembre c'è bisogno di un governo e di un Parlamento. Se non ci fosse un governo e un Parlamento gli italiani pagherebbero la rata di settembre, quella di dicembre, eccetera. Insomma, hai capito, Gabardini, che il gioco sottile della redazione, che anche questa sera ha trovato uno spunto musicale, sì. Dopo che Letta ha annunciato questa, la notizia del giorno è il taglio di 3 aerei. 3 su 10. 3 su 10, la flotta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 10 aerei, 3 sono tagliati, una percentuale non è male, il 30%. Certo, abbiamo già detto anche prima che sull'entità di questo taglio, insomma, non è che ci sia da essere tanto. Fa sempre piacere quando risparmiano, però appunto, ogni tanto sembrano un po'. La spesa pubblica è ancora lì tutta da tagliare, queste sono più che altro le spesucce. Un po' sì. E c'era anche un commento di Brunetta su Twitter che diceva. Che diceva che la parte. Ispirato, esatto, che la parte degli aerei era molto buona, okay. E che la parte invece dei tagli dell'auto blu era ispirata a un disegno precedente di Berlusconi. Intanto sulla questione dell'incandidabilità e dell'ineleggibilità di Berlusconi, il PDL e il centrodestra è uscito con alcune dichiarazioni. Calderoli dice: il Cavaliere può presentarsi comunque alle elezioni. Secondo quello che abbiamo sentito poco fa da Ceccanti, costituzionalista del PD, relatore della legge Severino, quella sull'incandidabilità per l'appunto, non è così, cioè non si può candidare, nel senso si può iscrivere alle liste elettorali, però poi i giudici dell'ufficio elettorale lo farebbero decadere subito. Ma naturalmente questa è una questione aperta. Sentiamo invece Alfano sul fatto del PDL come fortino delle tasse all'interno del governo. Sentiamo. Se il governo va avanti, l'IMU non si pagherà. Del resto noi siamo il fortino antitasse dentro questo governo e sono convinto che centreremo questo obiettivo, che non è un capriccio del nostro partito, ma è nel bene degli italiani e della ripresa economica. Come sempre, anche in questa fase si capisce bene quello che vuole il PDL, non si capisce bene quello che vuole il PD, per esempio sulla questione dell'IMU. Cioè si capisce, ma è tutto molto incerto e accennato, e cincischiato. Tanto che Prego, adesso che rinasce Forza Italia, mi chiedevo, Alfano, da che, cioè, rimane PDL o diventa Forza Italia? Torna in Forza Italia anche lui, sicuramente, credo. Sono solo quelli che vengono dal Partito Popolare, i cattolici, insomma, di ispirazione, che scalpitano perché Forza Italia era un partito laico, tipo Giovanardi, forse Rotondi, non lo so, Rotondi forse no, che non vogliono entrare. E quindi rimarranno in qualcosa, diciamo, di più cattolico, e più vicino a Casini. Sa Alfano che età aveva quando è nato Forza Italia? Perché Alfano è giovane. È giovanissimo, avrà avuto 20 anni, nemmeno. Forse anche meno. Sentiamo De Luca, dicevamo, il sindaco di Salerno, sul Partito Democratico. Mi vergogno di farne parte, praticamente, dice, a proposito della dirigenza del PD. Sentiamo. A cominciare dal tuo partito, tiro un po' le scatole. Perché se vedono che magari sei una persona libera che rifiuta la logica delle correnti e la logica di questa demenzialità che sta vivendo il PD in questo momento, io mi vergogno di sentire i telegiornali per non sentire l'imbecillità del gruppo dirigente del PD. Hai capito? Però, durissimo. Lui viene da quel partito lì, insomma, anche se non è un militante del partito, però insomma, anzi, credo che lo sia stato in passato. Va bene, abbiamo anche un Bossi da sentire, Umberto Bossi, che commenta questo braccio di ferro estivo tra il ministro dell'integrazione. È sempre meglio sentire due volte, perché la prima non si capisce esattamente quello che dice, quindi è ottimo. Vabbè, questo giusto. Però, poverino, perché no, vabbè, mica ho detto battutaccia. Niente. Una battutaccia. Bossi sul Chieng dice: ma non è lei a decidere sullo Ius Soli, bensì il ministro dell'interno, vale a dire Angelino Alfano. Stiamo. Ma secondo lei il ministro Chieng è un ministro inutile? Per adesso non ha ancora agito. D'altra parte bisogna ricordare che chi fa le leggi sull'immigrazione non è il ministro Chieng, può essere solo Angelino Alfano, il ministro dell'interno. Il ministro Chieng può parlare, ma chi può fare le cose davvero è Alfano. In aula gli ho chiesto se era sua intenzione modificare, cancellare la Bossi Fini, ma detto no. Ma appena staccati coi piedi da terra, si vola soltanto per fare la guerra, e perciò come dentro ad un sadico gioco. Oggi, Gabardini, per il punto di vista strambo, per il quale tu comunque hai l'ingaggio a poter partecipare, a fare domande, perché non è un'intervista istituzionale, certo, al politico di turno. Vogliamo fare un divieto a metà, diciamo. Divieto a metà, qua si può interagire. Esatto. Abbiamo convocato il direttore del giorno, Giancarlo Mazzucca. Buonasera. Buonasera a voi. Perché lui ha avuto alle spalle una legislatura da parlamentare nel file del PDL. Ha scritto un libro, Compagni di Camera, sì, nel quale racconta questo reality della Camera piuttosto deludente, dando ragione anche a chi in passato, ma anche attualmente, dice che, insomma, il Parlamento o lo riformiamo o, così com'è, rischia di essere sostanzialmente inutile. Ci sembrava utile, visto che si sono quasi sei mesi dall'insediamento di queste Camere, e si fa un bilancio, perché l'altra sera Giarrusso del 5 Stelle ha detto non c'è stata una legge di iniziativa parlamentare approvata dal Parlamento. Mazzucca, prima di tutto, prima di parlare poi anche di quell'esperienza tua, sì, cosa ne pensi di questi primi mesi di questo nuovo Parlamento, che partiva con alcune aspettative, insomma, di cambiare, di migliorare quella precedente? Ecco, io mi ritenevo sfortunato aver percorso la legislatura precedente, che era la sedicesima, e dicevo invece, ma forse sono entrato nel momento sbagliato. Ecco, mi sembra che questa legislatura sia ancora peggio. Si va di male in peggio. Si rimane in peggio. Questi primi 100 giorni non hanno portato dei grandi risultati, anzi, a parte la legge del fare, non ci sono stati sostanzialmente dei grandi provvedimenti varati dal Parlamento, e mi sembra anzi ancora peggio che l'atmosfera non sia assolutamente tranquilla, non sia serena. Qualche mio collega, forse anche per attutire la mia nostalgia del Parlamento, mi dice: che fortunato che sei stato a non far più parte della casta. Anzi, mi dicono ancora peggio. Qualcuno mi dice: guarda, che adesso tra tutti questi deputati, senatori che girano per le stanze, sì, di Montecitorio, di Palazzo Madama con di zainetti, sembra di essere una gita scolastica perenne. Cioè, e va bene, forse... sono i 5 Stelle quelli con lo zainetto? Quelli... probabilmente, non lo so, probabilmente si riferivano ai 5 Stelle, ma può darsi che anche altri si sono adattati alla moda. Ah, si sono impoveriti così tanto che non hanno neanche più i portaborsa, hanno i portazainetto? No, vabbè. Portazainetti e personale. Perché il discorso quindi... è che va bene la casta e i privilegi, però il lavoro del parlamentare è talmente frustrante che quasi quasi conviene non... almeno per chi ha un po' di coscienza di amor proprio di farne parte, almeno questo è quello che si capisce leggendo il tuo libro Compagni di Camera. Sì, qual è il momento più è stata un'esperienza con molte amarezze, con molte tristezze. Ecco, io mi ero imboccato questa strada con le migliori proposte di fare delle cose positive per me e anche per il paese, me lo consentivo, perché dicevo che era troppo facile scrivere contro il palazzo e non mai rimboccarsi le maniche per cercare di fare qualcosa di concreto. Io appunto ero stato chiamato a questa esperienza, quindi mi ero messo con i buoni propositi e devo dire che il primo giorno era stato molto bello, molto affascinante e anche molto emozionante. Io forlivese, che ho cominciato a fare il giornalista a 16 anni facendo praticamente il fattorino, trovarmi alla Camera era una bella soddisfazione. Poi dopodiché queste grandi soddisfazioni, questi grandi orgogli si sono pian piano scemati. Dopo il primo giorno praticamente, cioè il primo giorno un momento di emozione, poi dopo di che è cominciata la trafila, qual è il momento più frustrante? La prima grande delusione è stata quando ho parlato per la prima volta in aula. A un certo punto era un tema molto importante, il tema sull'Europa, sul Trattato europeo, quindi mi ero preparato bene, quasi come se dovessi fare un articolo di fondo sul mio giornale. Mi ero preparato, comincio a parlare e mi rendo conto che nessuno mi ascolta, neppure il mio vicino di banco. Io potevo dire le più grandi fregnacce che volevo e nessuno mi ascoltava, neanche, probabilmente neanche lo stenografo mi stava a sentire, quindi mi sono trovato da solo. Dopodiché, dopo 5 minuti che parlavo, il presidente Fini mi interrompe, dice: onorevole Mazzucca, le interrompo perché il tempo è scaduto, quindi concluda. Io ho cercato di concludere in tempi brevi, non ci sono riuscito, a un certo punto mi hanno tolto anche l'audio, quindi ho continuato a parlare ma nessuno poteva più sentire nulla, ma non mi ascoltava neanche prima. Comunque, ma era un boicottaggio nei suoi confronti o è prassi? È proprio abbastanza prassi. Ci sono degli interventi importanti di grandi parlamentari, ma se sei un peone niente, nessuno ti sta a sentire. Se non ci sono le telecamere, diciamo che non si ascolta tanto. Infatti questo è molto triste. Beh, è molto triste, come è triste la prassi continua di leggi che vengono annullate, vengono insabbiate tra gioco a rimpiattino tra Camera e Senato. Per questo io credo che sia importantissimo arrivare soltanto a una aula parlamentare. Basta, ecco, perché l'importante è capire anche questo, come se ne esce. Io fra l'altro voglio sottolineare che non mi sembra che di libri così, di denunce tra virgolette come queste, ce ne siano molte tra ex parlamentari, perché poi appunto si entra nella casta, si pigliano tutti i privilegi e poi dopo tutto sommato conviene mettere a tacere. È più difficile parlare male, diciamo, del piatto dove si è mangiato. Tranquillamente si è scritto il suo libro, sta girando l'Italia presentandolo e secondo me ci sono delle cose gustose da questo punto di vista. Però la domanda è: se ne esce diminuendo di importanza il Parlamento, come a volte ha lasciato intendere anche Berlusconi, cioè il Parlamento è inutile, addirittura controproducente proprio perché è lento, oppure come vorrebbero per esempio i 5 Stelle, che vorrebbero meno governo addirittura e più Parlamento? Tu che dici? Ma io non dico né meno Parlamento né più Parlamento, io chiedo soltanto un Parlamento che funzioni, che serva a qualcosa, perché molte volte questo bicameralismo è perfetto che ti annulla tutto, il fatto che ci sono troppi parlamentari, il fatto soprattutto che i parlamentari non vengono utilizzati per le loro competenze. Io appunto sono andato anche in Parlamento perché pensavo di saperne qualcosa sul fronte della comunicazione, ecco, non sono stato utilizzato se non alla fine per quello che dovevo fare. Ecco, quindi la cattiva utilizzazione dei parlamentari, questo è il grande problema. Quindi non si tratta di arrivare a un Parlamento che sia ridotto, un Parlamento che abbia maggiore efficienza. Dico che ci vuole un Parlamento che riesca a legiferare. Il fatto che in 6 mesi, diceva il parlamentare Grillino, non è stata varata una legge di iniziativa parlamentare, è molto grave e dà l'idea di come questo Parlamento sia un po' bloccato o quasi, insomma. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo e a presto Giancarlo Mazzucca. Spero in futuro di poter scrivere anche un libro magari con una spesa parlamentare che sia più positiva, una volta che c'è questa riforma, perché assolutamente è comunque è un ruolo importante, perché sei comunque al servizio dello Stato, e quindi è un peccato. Però il prossimo libro da cronista, non da parlamentare, mi sembra che questa esperienza da non ripetere, almeno per il momento. Ma questo comunque è sempre un'esperienza anche da cronista, questo libro, perché è comunque un diario più o meno segreto che adesso ho reso pubblico. Grazie, grazie mille a voi e buon proseguimento. Aperto. Grazie. And now, the good news! Antonio, maestro elementare in pensione, ha comprato un'ape usata, l'ha dipinta di blu, l'ha riempita di libri e ha iniziato a girare i paesini della Basilicata per trasmettere ai più piccoli la passione per la lettura. L'ha chiamata Biblio Motocarro, la prima biblioteca su tre ruote. Allora, riprendiamo con i vostri interventi, carissimi ascoltatori, con Anna che ci chiama da Venezia. Buonasera. Buonasera, sono Anna. Buonasera. Qua. Ecco, ciao gabardine. E dunque, pensar male si pecca, ma a volte ci si azzecca. E dicono che Rubi, la nipote di Mubarak, siano stati dati 5 milioni per cambiare versione. Il giudice non ha fatto un'azione fuori legge. Cioè un'azione, capite, da delinquente, però una leggerezza che può far annullare il processo, visto che non riescono a ottenere finora la grazia. Ma sta parlando del giudice Esposito? Sì, sì. No, non può annullare il processo, non può annullare il processo, almeno... No, lui, loro faranno di tutto per farlo annullare. Mm. Siccome a volte per un cavillo rilasciano gli assassini, sapete che... Cioè io non me ne intendo di processi, però sento a volte la radio che dicono per un cavillo è stato rilasciato... No, guardi, anch'io non me ne intendo di processi, però pare che in questo caso questo qui non sia un cavillo sufficiente per far saltare, diciamo, la sentenza della Costituzione. Ma vedremo alla fine, vedremo. Magari, sapete... appunto questo giudice non è un disonesto, ma magari una persona anziana che è a Cherona e che magari poi lo aiutano prima di andare in pensione con, come si dice, un qualcosa magari al doppio di quello che è stato dato alla Rubi. Questa è la teoria di una donna. Ha la stessa teoria complottista dell'altro ascoltatore che ha chiamato prima. Senti, quindi sta dicendo che Rubi ha preso 5 milioni, che secondo lei il giudice Esposito ne prende il doppio, è questo che sta dicendo? Ma siccome il condannato è uno che può togliersi più di qualche soldino. Comunque sì. Io Anna il suo buon umore lo mantenga, perché mi fa piacere. Soprattutto. Sa che noi abbiamo anche questo, facciamo anche grazie mille gli esercizi per essere felici, si figuri. Andiamo a Raffaele che ci chiama da Brindisi. Buonasera. Sì, buonasera. Mi è nato un piccolo dubbio. Siamo qui per questo. Ecco. Siccome viene sbandierato che la magistratura è tutta di sinistra, o in piccola percentuale qualcuno è anche di destra, ho pensato, fossero tutti di sinistra quelli della quello della Cassazione che ha deciso la sentenza di Berlusconi, non avrebbero fatto quella leggerezza, ci sarebbero stati molto attenti, perché insomma alla fine sono tutti figli di una cagna. Allora due sono le cose, o uno di questi non è di sinistra, è di destra ed è politicamente legato a Berlusconi, ha fatto quella fesseria per buttare discredito. Può essere anche uno che, come ha detto la signora precedentemente, ha bisogno di piccioli e ha cambiato idea con argomenti convincenti. E comunque non è che ha cambiato idea, ha rilasciato delle dichiarazioni, diciamo, in maniera inopportuna, ma, giusto? Sì, ma non si dovevano lasciare quelle dichiarazioni. In maniera inopportuna. Ha sbagliato, rischia di essere... diciamo ripreso dal Consiglio Superiore della Magistratura. Ma questo è già stato aperto un provvedimento, un procedimento su come Raffaele, è stata fatta una sentenza, sì? È già stato aperto un procedimento del CSM. Sì, sì, non modifica la sentenza questo, ovviamente so agli occhi dell'opinione pubblica il percepito potrebbe essere d'accordo. E porta quintali e tonnellate di voti delle prossime votazioni. Perché fa apparire alla popolazione, alla gente, agli elettori che realmente è vero, però il giudice le ha rilasciate queste dichiarazioni, che cosa possiamo farci? Sì, per buttare discredito. Il motivo non lo sappiamo. si può, vabbè, c'è da pensare male, come ha detto la signora. Tutti a citare Andreotti, ci cita più Andreotti di... E comunque vedi che questo argomento del giudice Esposito prende molto gli ascoltatori, perché comunque è parsa a tutti, secondo me, assurda questa cosa, sia da parte di chi è un sostenitore, per esempio, dell'innocenza di Berlusconi e della teoria del complotto, perché rafforza l'idea di un giudice che si comporta in maniera strana, sia, secondo me, anche per chi invece è un sostenitore del fatto che Berlusconi è stato condannato giustamente, eccetera, eccetera, perché dice: ma questo qua, questo giudice è un pazzo, cioè va a rilasciare un'intervista a un suo amico giornalista, a un certo punto poi smentisce, dice che non c'è questa intervista, poi però viene fuori l'audio e fra l'altro parla in napoletano, in quel modo un po' guascone, sì, è strana la vicenda, diciamo, come abbiamo detto prima. Direi che il giudice Esposito non poteva non sapere che avrebbe alzato un polverone pazzesco e che forse avrebbe anche lui non poteva non sapere. Valerio da Udine, buonasera, prego. Tutti parlano di Esposito, anch'io volevo intervenire su questo tema, ma avete messo tanta di quella carne al fuoco stasera. E prima cosa voglio dire, bisogna che la smetta Letta, Alfano, a ricattare dicendo: se non ci siamo noi paghiamo l'IMU. In questo Parlamento ci possono essere altre maggioranze con altri governi, napolitano permettendo. Michele Emiliano del PD, che abbiamo avuto venerdì scorso, ha detto a proposito di questa frase di Letta, dice: Letta ha deciso di parlare al cuore degli italiani. E anche al portafogli, direi. Degli italiani, esatto, più che al cuore. Era ironico, era ironico. Prego. Ma è vergognoso che si ricatti a ogni telegiornale queste cose qua. Sono ricatti questi. No? Per quanto riguarda il giudice Esposito, è ovvio che questo, a mio parere, ha fatto una stupidaggine grossolana. Ma dico, fidandosi di un amico da 30 anni, diceva bene l'ascoltatore di Taranto, ma scusatemi, cosa ha fatto di illegale sto giudice? No, è una questione inopportuna, non è... È una questione di opportunità, ma sì. Le opportunità non sono illegalità. Intanto mi pare tanto strano che in un paese dove le leggi vergogna non si cambiano, e questo governo ovviamente non le cambierà, dove si rinvia la legge elettorale da anni che devono cambiare questa legge, dove è falso in bilancio che devono rimetterlo, stiamo ancora discutendo se metterlo, che facciano rientrare il CSM dalle ferie, che il ministro prenda posizione immediatamente mandando gli ispettori, per un giochino che, voglia o no, aiuta solo quelli che sostengono l'evasore, perché questo pagherà le milioni. Abbiamo capito, credo, no, quello che voleva dire. Voglio dire solo una cosa, sì, io dica. Visto che il giudice dice che lui quelle cose che sono state scritte non le ha dette, sarebbe utile che qualche PM di quello un po' inviso. No, vabbè, ma lui ha detto così prima, poi ha smentito a un certo punto perché pare che ci sia la registrazione. Di fronte alla registrazione non ha potuto far altro. Grazie Valerio. Andiamo a Paolo, che ci chiama da Roma. Buonasera Paolo. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Dunque, io ho lavorato per parecchio tempo a Ciampino. Come sapete, Ciampino a Roma è un aeroporto militare aperto al traffico civile. È da lì che partono tutti i voli di Stato. Ah, quindi conosce i tre aerei che abbiamo venduto? Questo, sì. Li ha comprati lei? No, magari. Quello che volevo dire, ci sono diversi Canadair parcheggiati lì da tempo in condizioni pietose. Allora, la Protezione Civile ha in totale di proprietà 19 Canadair in tutta Italia, 19, di cui diversi li ho visti apparcheggiati lì a Ciampino. Io voglio capire cosa hanno risparmiato vendendo tre aerei di voli di Stato. Allora, la Presidenza del Consiglio, per il lungo raggio, usa tre grossi A319, che sono aerei a lungo raggio. Poi ci sono altri aerei Falcon per il medio raggio, quegli aerei a 5-10 posti. Allora, ammettendo che hanno venduto tre aerei, e non credo che siano questi Airbus 319 a lungo raggio, che servono proprio per i voli a lungo raggio, cosa hanno potuto risparmiare vendendo i Piaggio, quelli piccoli, P180, capisco in maniera tecnica. Ma noi non ce ne intendiamo molto di aerei. No, poi la cosa interessante sarebbe sapere chi li ha comprati, no? Sì, però quello che volevo dire io, hanno venduto forse questi aerei piccolini da 10 posti, che avranno guadagnato forse qualche milioncino di euro. Vabbè, ma risparmiamo anche i costi di manutenzione. Sì, no, però Gabardini ha le cifre, Gabardini. guardi, numeri, un Airbus 419 e due Falcon 900, quindi lei li conosce, magari gli ha anche com'è, l'Airbus, ha fatto la manutenzione. L'Airbus è grande. Non è il 419, no. Il 319 VIP, fatto un aereo da 100 passaposti, fatto a modo VIP. Poi hanno venduto due Repubblica. Falcon. Ecco, no, sì, un attimo, facciamo un chiarimento, abbiamo l'ascoltatore che lavora a Ciampino. Allora, l'Airbus ha 100 posti, quindi è un aereo grosso. Sì, 150 posti, poi è stato fatto in modo VIP, allestimento VIP per 20 persone. Quindi ribadisco bello, la domanda, sono curioso di sapere chi l'ha comprato. L'altro, i due Falcon sono aerei VIP business jet che usano anche appunto i miliardari per spostarsi, sono da 10 posti, quelli ma anche che l'hanno venduti questi aerei, sappia che un Canadair costa 31 milioni di dollari. Quindi ammesso che riescano ad aver avuto 10-15 milioni fra il totale, 20 milioni, non riescono a comprare neanche un Canadair. Si parla di 50 milioni di risparmio, poi io non lo so quanto mi viene via il Canadair, 50, non glielo so dire. Allora, il Canadair... Un paio di Canadair ce li prendono, dai. Il Canadair costa 31 milioni di dollari. Ma nuovo? Ma noi magari lo prendiamo usato pochissimo. Poi c'è il cambio, bisogna vedere anche il cambio. Ho capito, ma quello che volevo dire è che si sta risparmiando sulle briciole come alla parata del 2 giugno. Va bene, Paolo, siamo d'accordo con lei da questo punto di vista. Hanno eliminato le frecce tricolori alla parata per risparmiare 400.000 euro rovinando la parata. Che cosa si risparmia per salvare l'Italia? Un economista ha detto che ci vorrebbero 100 miliardi di tagli alle spese per investire sull'Italia e farla decollare, non con queste briciole. Va bene, grazie Paolo, abbiamo capito il suo intervento. Perfetto, andiamo a Giovanni che ci chiama dalla provincia di Genova. Buonasera Giovanni. Buonasera. Prego. Volevo intervenire sull'argomento, diciamo, femminicidio, omofobia e questo tipo di argomento qua. Secondo me, mi sembra che adesso questi argomenti qua, anche se oggi non è il giorno adatto di parlare per i fatti che sono avvenuti, siano più a scopo elettorale che per risolvere effettivamente i problemi, perché quando si va a dare dei diritti in più dovrebbero esserci dei contropesi, cioè perché ci dovrebbe essere un equilibrio. Forse secondo me queste leggi fatte su Giovanni, forza Giovanni, ancora 30 secondi per chiudere, dai, se no qua facciamo notte. Creano più problemi di quelli che vorrebbero risolvere. Ma quale intanto, scusi, omofobia o femminicidio? Perché sono due omofobia. Ma non è lo stesso. Guarda che Giovanni dice una cosa che è sensata. Difendono la persona, la sua integrità, la persona, non bisogna dare delle categorie, perché se si danno le categorie si creano i conflitti. Va bene, grazie Giovanni, abbiamo capito, questa è una questione che ritorna sul fatto di intervenire in questo modo, creando, come diceva Giovanni, le categorie oppure no. È questione, certo, insomma, di punti di vista e di tecnica legislativa anche, cosa vuole che le dica. Adesso salutiamo il sindaco di Andorra con una R, Franco Floris, buonasera. Buonasera. Che abbiamo invitato perché Gabardini non può parlare perché è stagista, l'ingaggio non lo prevede, perché oggi c'è un bel articolo sul giornale che fa l'elogio del vostro piccolo comune nel quale le tasse sono ridotte al minimo, finalmente qualcuno che ce la fa, l'IMU al minimo, l'IRPEF addizionale non c'è o quasi. No, non c'è proprio. Non c'è proprio. No, beh, insomma, è una procrastinazione che da anni portiamo avanti. Sì. Riteniamo che amministrare aumentando le tasse sia un errore clamoroso, bisogna abbattere le tasse. Ecco, c'è qualcuno che ce la fa perché se ne sente parlare in giro, però poi sono solo proclami, annunci, eccetera. Invece voi riuscite, addirittura sono gratuiti anche i posteggi, i parcheggi lì da voi. Io sono assolutamente contrario ai parcheggi a pagamento, credo sia una cosa, una vessazione in più sia al turista che al residente, dunque ma io meno. Credo che molti suoi colleghi sindaci sarebbero favorevoli anche loro, il problema è che non sanno da dove prenderli e quindi li prendono parlo dei dove soldi possono, dove posso? Voi come fate? Cioè forse perché avete 50.000 turisti che arrivano ogni anno. Beh, insomma, 50.000 turisti in un paese turistico, abbiamo la fortuna, insomma, di avere come un indotto economico molto importante, molto forte, ma non certo per le casse comunali, più che altro per le attività. La prima entrata che abbiamo ottenuto è il risparmio. nel senso che abbiamo tolto i consorzi, abbiamo eliminato... Avete tolto, scusi, non si sentiva bene, i consorzi? Cos'è che avete tolto? Abbiamo tolto una serie di consorzi che esistevano da sempre, sì, con consigli di amministrazione, consulenti, segretari, commercialisti. Cioè l'avete chiusi proprio? L'avete... Tutta questa roba qua l'abbiamo chiusa, eliminata, risparmiando spesa corrente importante. Non abbiamo venduto il nostro porto facendo una battaglia molto, molto imponente, molto importante, molto impegnativa, l'abbiamo mantenuto comunale. Questo porto ci dà un'entrata di 1.400.000 euro netti all'anno. E questa è un'entrata, come dire, chiara, sempre fissa, può diminuire un pochino, alzarsi un pochino, ma insomma è un'entrata certa. Abbiamo fatto una farmacia comunale che spende dei soldi, fa degli utili, una spiaggia libera attrezzata col suo chiosco che fa degli utili. E ripeto, quanto costa il lettino e l'ombrellone lì da voi nella spiaggia pubblica? Ma è pochissimo, perché è una libera attrezzata, quanto? Comunale, siamo sugli 8 euro. 8 euro il lettino o 8 euro l'ombrellone? E insieme, sono due lettine e l'ombrellone, 8 euro al lettino. È poco, perché cavolo, esatto, ti chiedono fino a 30 euro in giro, anche di più. E il gin tonic al chioschetto? Vabbè, Gabardini. non so dirglielo, chiedo scusa. Non potevo neanche fare domande, che sono stagista, mi ho proprio scappato così, chiedo scusa. È così. Mi ritengo monito. Scusi, un'altra cosa importante è la gestione delle gare, degli appalti, dei servizi. Noi per esempio nel 2007 abbiamo fatto una gara d'appalto per la gestione di tutta l'illuminazione pubblica, ecco, e questa è una cosa interessante. Elettrica, noi dal 2007 risparmiamo dai 50-60 mila euro all'anno solo su quella, senza dimenticare che in tutti questi anni l'energia elettrica è aumentata in modo esagerato, noi quella parte lì ce la siamo risparmiata tutta. E abbiamo fatto altri appalti di questo tipo che ci hanno consentito di risparmiare molto, moltissimo sulla spesa corrente. Risparmiando sulla spesa corrente abbiamo ottenuto dei risultati, come la razionalizzazione dei dipendenti, le molte PO, quando sono entrate ce n'erano tantissime, le abbiamo eliminate, abbiamo razionalizzato e abbiamo ottenuto questi risultati. È un tagliatore di teste praticamente, da quanti anni fa il sindaco? È stata una cosa progressiva, non è stata fatta da un giorno all'altro, è tutta una programmazione che sul tempo, nel tempo, ha portato a questi risultati. Ci possiamo permettere di agevolare i nostri cittadini e i nostri residenti. Lei da quanti anni è sindaco lì di Andorra? Allora, io sono 9 anni e termino l'anno prossimo. Peccato, diranno i cittadini, visto che ha lavorato così bene, vorrebbero... Ma qualcuno dirà peccato, ancora. Qualcuno dirà meno male, insomma. Non lo so, sì, questo... C'è chi è contento, che noi abbiamo fatto, penso di aver fatto insieme ai miei colleghi quello che potevamo... Senta, la questione Floris, la questione dell'IMU, perché per esempio i sindaci della Lombardia si sono trovati qualche giorno fa perché hanno detto se poi viene cancellata l'IMU e non c'è nessuna compensazione per noi comuni, faremo la guerra, la rivolta. Lei che ne pensa? È vero, ma questo è assolutamente vero, soprattutto è vero in quei comuni dove non c'hanno seconde case, perché se tu gli togli l'IMU prima casa, evidentemente togli un'entrata talmente importante che questi rimangono senza cassa. Dunque assolutamente hanno perfettamente ragione. Nel mio caso io potrei anche evitarla, perché ho la fortuna, ho la sfortuna per altri versi, di avere tantissime seconde case. Dunque capisce che la prima casa per noi incide poco, perché con tutte le esenzioni che abbiamo messo, essendo peraltro noi abbiamo applicato un 3,5 per 1000 con tutte le esenzioni, abbiamo incassato veramente poca roba, abbiamo incassato i soldi di quelli che ci hanno importanti. In compenso però, se abbiamo letto bene, avete collaborato con l'Agenzia delle Entrate, vi siete meritati anche un premio, cioè ci conferma questa cosa qua, col metodo della segnalazione dei potenziali evasori, come funziona questa cosa qua? Noi intanto è da anni che abbiamo sempre detto pagare meno, l'abbiamo fatto veramente, nel senso che da tempo noi abbiamo fatto un'attività seria, infatti noi abbiamo pochissima gente che non paga, no? Noi abbiamo il 98% dell'entrata chiara su 100. Cos'è che avete, scusi sindaco che la sentiamo male, 98% di entrata? Sì. Noi prendiamo 98, nel senso di 100 presunte entrata ne prendiamo 98, ne perdiamo 2, su 100 euro ne perdiamo 2 euro di gente che non ci paga, nel senso che siamo stati negli anni molto ma molto severi nel farci pagare l'acqua, la fognatura, tutte le robe, insomma. Cioè voi abbassate le tasse più che potete, però poi pretendete che vengano pagate più che potete. Esatto. Esatto, in più cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un accordo che anche altri comuni stanno facendo e hanno fatto con l'Agenzia delle Entrate, che grazie ai loro dati, ai nostri dati, mettendoli assieme, intrecciandole, abbiamo, come dire, scoperto anche un'altra zona d'ombra, che era quella dei falsi residenti, e qui stiamo ottenendo moltissimi risultati. È chiaro che ad Andorra... Cioè, falsi residenti, uno prendeva la residenza perché conveniva fiscalmente, però poi non ci stava? Conveniva perché paghi meno IMU, come dicevo prima, e non paghi addizionale, e dunque... Ma scusa, ma come fa uno ad avere la falsa residenza per non pagare l'IMU se non ha la casa? Semplice. Cosa fanno? Solitamente sono marito e moglie dai 45-70 anni, uno lavorano a Torino, e allora cosa fanno? La moglie o il marito per la residenza... ad Andorra dove ha comprato la seconda casa, e uno dei due rimane residente nella città di origine, finché non gli becchi sta gente qua, pagano come un residente vero, insomma. Noi, mettendo assieme i consumi e alcuni dati, li abbiamo scoperti e li stiamo scovando, insomma. Vabbè, complimenti, insomma, congratulazioni. Noi poi stiamo ci atteniamo provando a quello che abbiamo letto, a quello che ci dice, non è che abbiamo fatto dei grossi approfondimenti, però questa cosa qua dell'Agenzia delle Entrate risulta, questo premio fedeltà. Tenga conto una cosa, che noi l'anno scorso il Ministero dell'Interno ci ha premiato azzerandoci l'abilità. Due anni fa ci ha premiato azzerandovi che cosa, scusi, che non abbiamo azzerandoci l'obiettivo del patto di stabilità. Che tutti gli anni noi dobbiamo, purtroppo noi abbiamo un problema, che è il patto di stabilità. Noi abbiamo in cassa 20 milioni di euro che non posso spendere, sì, quei sono limiti, diciamo, di spesa dei comuni, che sono i soldi ammesso, che sì, ogni anno devi mettere via e vanno a fare questo tesoro. Ad oggi sono 20 milioni. Allora, l'anno scorso il ministero ci ha azzerato l'obiettivo, ci ha detto: no, voi non dovete raggiungere nessun obiettivo perché avete fatto, come dire, siete un comune virtuoso. Dunque, l'anno scorso ci ha azzerato l'obiettivo, due anni fa ci hanno dato un premio di 160.000 euro. Insomma, credo che siamo anni che ci lavoriamo, ci sbattiamo, e qualche risultato lo stiamo ottenendo. Sindaco, deve andare a fare il Presidente del Consiglio. No, questo me l'ha fatto già un altro, una battuta del genere, meglio di no di questi tempi e in queste condizioni. Perché ha paura di qualche sentenza, di qualche condanna? No, assolutamente. No, è che è molto difficile. Cioè, adesso potrebbe tutto... quantomeno aprire un ufficio di consulenza. Ecco, e fare questo un po' di consulenza. Magari se qualcuno ha bisogno di aiuto sono disponibile. Grazie. Ma già lo fa per Lanci, onestamente. Già lo fa per Lanci, bravo, mi raccomando, avanti così. Grazie. Franco Floris, sindaco di Andorra, avete sentito? La politica è questa: tenere basse le tasse e pretendere che vengano pagate. Un caso su mille, direte voi, non lo so. Intanto questo l'abbiamo scovato, anzi l'ha scovato il giornale, e noi vi abbiamo riproposto. Chiedo scusa di nuovo per la mia intemperanza sul regolamento delle regole d'ingaggio. Beh, ma era un sindaco in un piccolo comune, esatto. Poi lui ci stava, insomma, quindi non ha infastidito più di tanto, mi pare. No, ma mi hanno ammonito anche dalla regia, ed è sempre giustissimo. Hai dato il cartellino giallo. Sì. Attenzione, perché siamo solo al primo giorno della settimana. Esatto. 800 24 00 24, riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori, e abbiamo Andrea che ci chiama da Monza. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Allora, io ho 36 anni, però in buona sostanza ho sempre cercato di seguire la vita politica del paese. Ora, noi veniamo da 20 anni di praticamente immobilismo, in cui si è sempre parlato di Berlusconi in tutte le maniere. Non ci siamo accorti che nel frattempo ci siamo trovati governati da persone del calibro di, non so, faccio degli esempi a caso, Lupi, Alfano. Allora, Lupi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Allora, lui è laureato in scienze politiche, ha un passato di giornalista, fa il ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Allora, lui come infrastruttura, secondo me, a stento conosce l'impianto idraulico di casa sua. Comunque, vabbè, Alfano, sappiamo tutti del matrimonio mafioso nel 96 con il video pubblicato da Repubblica nel 2002. Abbiamo visto che questa classe dirigente in 20 anni non ha fatto altro che fare accordi internazionali cercando consensi internazionali, quindi accordo del Trattato di Lisbona, l'accordo di Wessel sulla polizia europea, e secondo me queste persone degli ultimi 20 anni devono essere processate per alto tradimento. Molto semplice. Ma chi sono queste persone, scusi? Tutti i politici? Tutti quei segretari di partito che hanno occupato abusivamente delle poltrone all'interno del Parlamento italiano e che hanno preso decisioni come la ratifica. Sono stati eletti, però non è che li hanno occupate abusivamente, giusto? Sì, eletti con un meccanismo perverso che sappiamo tutti essere non solo la legge Calderoli. Ecco, ma bisogna modificare la legge. Se finché c'è quella legge lì, non si può dire che loro abbiano occupato in maniera abusiva. Beh, giusto? Loro sono lì e sono abusivamente a occupare delle posizioni e dei ruoli che non gli competono. Ma... perché le faccio l'esempio di Lupi. Lupi, secondo me, è una persona che di infrastrutture non sa assolutamente nulla. Sì, però non è che lui è abusivo perché non conosce le infrastrutture. No, però è un segnale di come vanno le cose nel nostro paese e come sono andate negli ultimi vent'anni, cioè la spartizione di poltrone, di ministeri a persone solamente per favori politici, come prendiamo Alfano è il ministro dell'interno, ora ci arrivano i barconi a 15 metri dalla riva a Catania e lui è un ministro dell'interno che non sa nulla. Dov'è? Ma cosa dovrebbe sapere Alfano? Scusi, cosa dovrebbe sapere Alfano sui naufragi? Dov'è il pattugliamento delle frontiere del mio paese? Sì. Il mio paese ha delle frontiere che vengono violate sistematicamente. Allora, che cosa vogliamo fare? Non lo so, ce lo dica lei. Sicuramente prendere atto che siamo governati da persone incapaci. Prendere queste persone incapaci e processarle per alto tradimento. Andrea, no, alto tradimento che vuol dire? Semplicemente bisogna non votarli più alle prossime elezioni, molto semplice. Francesco da Frosinone, buonasera. Ciao, buonasera. Prego, sono buonasera. Un imprenditore della provincia di Frosinone e volevo chiedere una cosa, ma i danni procurati alle aziende per il mancato pagamento delle pubbliche amministrazioni, chi li paga? Non lo so, vuole un avvocato, qua ci vuole un legale. Questa è la domanda Oscar che vorrei Giannino, fare a Letta. Oppure Oscar Giannino che no, ha fatto una battaglia. Questa è la domanda che vorrei fare a Letta. Le faccio un esempio però. Io ho un bilancio che chiude con 280.000 euro di utile lordo. Pago 120.000 euro di oneri finanziari, sì. 80.000 euro di sanzioni perché non ho potuto pagare le tasse per colpa che abbiamo già io perso. Io mi sono perso, abbiamo esatto. Già perso il conto, quindi conclusione? È 80.000 euro di IRAP, andiamo sotto di 10.000, mi spiega come facciamo a pagare le imposte? E come facciamo a non chiudere? Ha sentito come fanno ad Andorra, il piccolo comune? Come scusi? Ha sentito come fanno ad Andorra quel piccolo comune? Andorra evidentemente i suoi fornitori li paga. No, non solo li paga, ma certo le tasse le tiene basse, però pretende che vengano pagate. Per quelli che invece, per i comuni che sono in predissesto o in dissesto, chi è che risarcisce l'imprenditore? Ripeto, non lo so. Voglio dire, non lo sto domandando a lei, sì, lo domando ai nostri politici. Ce lo domanda con una certa influenza. Temo nessuno. È un appello anche questo, è un invito. È un appello, sì, è un invito a chiarire anche queste cose. Va bene, perché i famosi pagamenti delle pubbliche amministrazioni ancora non si sono visti, Anche questa è una cosa. È una cosa un po' rimandata. Grazie Francesco, grazie. And now, the good news! Giada Gaia Cicala è una giovane stilista milanese che si è inventato un marchio di moda con abiti riciclati al 100%. Ecologina. Recupera le stoffe di scarto delle aziende tessili e compone degli abiti fantasiosi che fanno dell'assemblaggio la chiave estetica vincente. Ma non dite che sono quattro stracci! Andiamo con i gabbiani in sottofondo a Carlo che ci chiama dalla provincia di Isernia. Buonasera. Buonasera a lei, scusi se mi permetto. Prego. È che mi assilla un'idea da qualche settimana e sì. Non so a chi esternarla. Noi siamo qua anche per questo. Siamo qua apposta. Proviamo, grazie. Vediamo un po'. Senza nessuna connotazione politica, sì? Ma solo chiamiamola fanta economia, poi lei interloquirà con me e le spiegherò meglio. Sì, io penso ai cassa integrati. Quelli che soffrono, cioè quelli che si sentono addirittura depressi, e ce ne sono, senza parlare degli estremi, non ci si potrebbe rivolgere a questi signori invitandoli, non costringendoli, a recarsi nei loro posti di lavoro e trattando con il, come preferisce, datore di lavoro o padrone, dire tu limiti molto, anche al 50% i tuoi profitti. Noi purtroppo, tra virgolette, siamo mantenuti dal contributo sociale, da questa benedetta cassa integrazione, meno male che c'è. Noi, quindi, questo comporterebbe quindi non vorremmo niente, siccome io intendo il lavoro, sbagliando forse, anche come interlocuzione, come porgersi a qualcuno, un minuto parlare di sport, insomma vivere, va bene, non è solo sudore. Ma non ho capito, scusi, ma lei è un cassa integrato? No, ma mi li tengo molto al cuore, per ottimo. Cui sperimentare un modo di lavorare dicendo quattrini non ce ne devi dare ogni mese, perché purtroppo, prendiamo la cassa integrazione. Tu limiti molto i tuoi margini, per cui un prodotto, diciamo una sedia, non so, così dico a caso, invece di costare 30 euro costerebbe 15, un automobile per esempio, se lo capisse Sergio Marchionne, costerebbe 3 euro invece di 5,80 euro, parlo solo di materiale e valore. In che senso un'automobile costerebbe 3 euro invece di 5,80? Per chi? No, momento, 3 euro al chilo, franco fabbrica, e invece al che chilo? 5 euro... Sì, abbia pazienza, io parlo così, sarò lo scemo del paese. Ma no, invece è interessantissimo, mi piace un sacco sapere quanto costa al chilo un'automobile. Un'automobile mediamente oggi costa dai 5,7 ai 7 euro al chilo. Ma è bellissimo. Però parlo di franco fabbrica, signore, cioè non si possono aggiungere ammortamento catene, accantonamento per restyling. No, ma è troppo difficile, per me è troppo difficile. Posso veramente decretare, no, finita questa cosa tra Gabardini e l'ascoltatore, base, che non abbiamo capito alla, nulla? Se no siamo qua fino a domani. Ma tu sapevi che l'automobile costavano dai 5-7 euro al chilo? No, ma questa cosa qua non è vera, non lo so, questo ascoltatore non mi sembra molto. Io vado a prendermi 6 etti di una Fiat adesso. Va bene, possiamo finirla qua? Sì. No, ma volevo spiegarglielo, cioè farlo per un tempo determinato e in una zona determinata a tipo sperimentale. I prodotti costerebbero manodopera senza valore aggiunto, quindi almeno grazie, la metà. Grazie, io basta, adesso la dichiaro finita. Titoli del TG1. Uccide la ex e viaggia con il corpo in auto per 400 km, lo aveva denunciato per stalking a Genova, donna sfigurata con l'acido. Soluzione entro la fine del mese per la nuova IMU, spread ai minimi da 2 anni, sotto quota 2,45, ma il debito aumenta. Spending review del Premier Letta, tagliati i voli di Stato e auto blu, risparmi destinati alla lotta agli incendi con l'acquisto di Canadair. 3 bambini scompaiono nell'Adige, uno in difficoltà, gli altri si tuffano per aiutarlo. Emozione ai funerali dell'avvocato eroe. Paura per padre Dall'Oglio, scomparso in Siria, un sito arabo è morto. La Farnesina non conferma il nunzio a Damasco, non abbiamo notizie. A Ponza, tra passato e presente, viaggio del TG1 sull'isola, come sono cambiate in 50 anni le perle del turismo italiano. Arianna Enrigo è la nuova donna simbolo della scherma italiana. Dopo la delusione di Londra al Mondiale di Budapest ha conquistato 2 medaglie d'oro e in corsa per loro anche la squadra maschile di Fioretto. Ascoltatori al nostro numero verde 800 24 00 24. Andiamo, dove andiamo? Da Antonio che ci chiama dalla provincia di Siracusa. Buonasera. Buonasera a voi, piacere di sentirla. Buonasera. Allora, io vista mare, vista mare da Siracusa, vista mare. No. Sì, vista mare, Avola proprio sta sul mare. Beati voi. La invidiamo moltissimo. Beh, insomma, poi uno ci prende l'abitudine e non ci fa più caso. È bello abitare dove non si abita, questo è un proverbio russo. Bravo, russo. È un proverbio russo? Sì, un proverbio russo, diceva, ma anche se stai a 5 stelle poi vai in una bettola, però per un giorno è sempre bello. È bello abitare dove non si abita. Vabbè, proverbio russo. Grazie Antonio per questa pillola di saggezza. Prego. Però io ho chiamato appunto perché siccome abito in un proprio a sud della Sicilia, lungo il mare, vedo questi barconi abbandonati e vedo poveracci che nei giorni scorsi sono morti nella spiaggia di Catania. E allora mi chiedo, ma tutti i centri d'accoglienza sono strapieni, no? Malta di recente non ha accettato tutti questi emigrati perché insomma faceva male al turismo, è un'isoletta che vive di turismo, è un po' filo inglese, un po' non lo so, se, anche se fa parte dell'Europa, anche se c'è l'euro. E noi siamo, cosa dobbiamo fare? Cioè, quanto ci costano? Cosa faranno questi qua? È un problema. Però Antonio, è chiaro quello che lei pone, però non è che ci possiamo paragonare con Malta. Malta è un paese piccolo e quindi più di tanto. Sì, certo. Cioè, se ci lamentiamo noi, dei nostri naufraghi, si immagini loro. Sì. Della vivibilità insomma dei turisti che vanno a Malta, perché è una piccola isola che vive di turismo, anche l'acqua gliela porta. Ma cosa bisognerebbe fare con questi naufraghi? Bisognerebbe... Il punto è questo, però quantomeno mettere una tassa, che questa tassa la paghi l'ONU, la paghi qualche cosa. Il mondo deve svegliarsi, perché l'Italia non è che può sopportare. Adesso vengono gli egiziani perché c'è la guerra. Questo che lei dice non è sbagliato, cioè, potrebbe essere Antonio una tassa, cioè come il rimborso, non so, quando uno va all'ospedale o in una casa di riposo riposo che la paga lo Stato, la paga la Regione. Esatto. La stessa cosa quando un paese accoglie un naufrago che ha diritto, d'asilo, ci pensa l'ONU. Va bene. Persone, perché mi fanno pena anche, poverini. Antonio, questa è una bella proposta. Va bene, voleva dire qualcos'altro? Sì, no, niente, voglio dire, poi i pescarecci ormai nel canale di Sicilia pesce ne prendono poche, tante volte nelle sacche delle reti tirano uomini morti. Vabbè, Antonio, però questi particolari macabri risparmiamoceli, grazie. Andiamo a Enzo che ci chiama da Pisa. Buonasera, intanto volevo farvi complimenti per la trasmissione. Grazie. Fare due piccoli interventi. Allora, il primo, non so se sono già detto da qualche ascoltatore prima di me, sugli F-35 e sui Canadair c'era stato già il posto di Grillo che aveva detto che quando ci saranno gli incendi in Sardegna potevano mandare gli F-35 a bombardare gli incendi anziché dei Canadair, e mi sa che lei si è ispirato a quel posto per comprare i Canadair. Ma il posto di Grillo però era ironico, mi pare, o no? Sì, certo, è un bel po' ironico, però Letta giustamente ha sfruttato l'assist e si è fatto lo spottone con i Canadair. E la seconda cosa è un suggerimento, non so se voi avete visto il film Leoni per Agnelli. Sì. Con Tom Cruise. Sì. Praticamente è la storia di una giornalista che viene chiamata da un politico che vuole avere visibilità proponendo un'azione oggettivamente stupida ma che mediaticamente funziona parecchio. Quindi? No? E secondo me quando Letta se ne esce con queste sparate dei Canadair, del risparmio del milione, l'aereo che vende, l'aereo che compra, no? Che sono briciole rispetto ai soldi che ha gettato per gli F-35, secondo me la stampa in massa dovrebbe ignorarlo. Lui fa questa sparata e la stampa lo ignora. Sì, però sì, almeno si parla di cose serie. È vero che abbiamo già detto che in realtà diciamo è una minuzia, però non mi sembra nemmeno che stia facendo una sparata, chissà quale sparata elettorale, dicendo vendo tre aerei e compro dei Canadair. Se posso. Sì, ma si parla di quello, però. Sì, però non penso che sia un'operazione così malefica e geniale che ci sta dietro, giusto per vendersi oggi il 12 d'agosto compro dei Canadair e ho venduto tre aerei. Ma mi io poi che ripeto, tutti stanno sbeffeggiando la notizia. Ripeto, anche. Voglio sapere chi li ha comprati, perché secondo me non è vera neanche la notizia che li ha venduti, perché per venderli ci vuole un acquirente. Quando li ha venduti oggi? La notizia tu stai che vendendo oggi... la tua vecchia Opel da 6 anni. Lei, Enzo, ha notizie su questo? Ha capito? Penso che li abbia solamente messi in vendita, non credo che siano già stati venduti. Quindi poi scopriremo tra un mese che non c'era neanche la notizia. Grazie Enzo, scopriremo tra un mese che non c'era nemmeno la notizia, che non sono stati neanche venduti, perché sono stati messi in vendita. Sono in conto vendita a Malpensa probabilmente, e se qualcuno passa di lì. È tragicamente possibile, ma naturalmente è solo un'ipotesi, non abbiamo notizie, anzi... magari dovremmo averne di più, però da quello che si sa fino adesso mi pare non... Se chi li ha comprati diciamo è chiaro, in ascolto, è che ci chiami per dirci che ha acquistato lui il Falcon, per esempio, all'800 24 0024. Chi sentiamo adesso? Filippo dalla Spezia. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo portare il contributo alla trasmissione portando un esempio che è noto fuori dai confini italiani, ma purtroppo complice anche un po' di informazione tra la quale voi ovviamente non rientrate. Grazie. In che senso? Prego, no, va detto. Che non rientriamo perché, nell'informazione? No, in quel tipo di informazione, perché ogni tanto spunti di questo genere Radio 24 ne fa. Volevo portare un esempio che... dovrebbe far riflettere parecchio, che è in assoluto. Qual è? Porti l'esempio. Io conosco un po' la realtà australiana, come quella neozelandese, eccetera, e laggiù c'è una regola molto semplice per quanto riguarda proprio le tasse. E intanto sono sconcertato, qua in Italia stiamo a rincorrere i 4 miliardi di IMU piuttosto che i 16 miliardi che ha riuscito a recuperare l'Agenzia delle Entrate, chissà se bastano per recuperare e pagare le spese e gli stipendi dei componenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia. Ma ci dice questa regola neozelandese, che siamo curiosissimi. Sì, un attimo, è semplice, molto semplice. No, un attimo, no, veloce Filippo, velocemente, grazie. Sì, c'è una suspense incredibile. Tassazione dei redditi netti, cioè con la totale tracciabilità dei redditi netti che si ottiene tranciando diciamo il cordone ombelicale di convenienza fra colui che riceve e colui facciamo che dà. È troppo difficile. Aspetta, facciamo una cosa, Filippo. Facciamo una cosa. Ci mandi uno specchietto. Facciamo una cosa, Filippo. Ascolti, ci mandi una mail. Si può fare radio24.it oppure su Facebook e ci scriva esattamente qual è la notizia, così se riusciamo a capirla, a decriptarla. Magari A la inseriamo tra le nostre good news oppure ne parliamo come spunto, perché così altrimenti non si capisce niente. Marco da Bergamo, buonasera. Sì, salve, senta, sarò breve così vi metto tranquilli, perché voi la prima cosa che dite non abbiamo tempo, passiamo al prossimo. No, non è vero. Abbiamo dato un sacco di tempo agli ascoltatori, giustamente. Senta, a proposito di del Berlusconi, desidero dire una cosa che secondo me è rilevante. Nella faccenda del giudice che ha fatto l'intervista e via dicendo, a un certo punto si dice, perché lui non poteva non sapere in quanto gli era stato detto da alcune persone e via dicendo. L'avvocato Coppi e quelli che parteggiano per il Berlusconi si sono attaccati a questa frase nel dire, come? Qualcuno ha detto, ma noi non sappiamo niente di questo. Chi ci potrebbe essere l'inghippo secondo me? Perché sta faccenda qui non sta in piedi per niente, arriva come un fulmine al ciel sereno e uno non si capisce perché una persona come Berlusconi, di cui non c'è da fidarsi perché si è messa assieme a Previti, Brancher, Dell'Utri e via dicendo, possa avere dei benefici, perché adesso dicono che ricorrono al TAR. Io non ho capito. Ma qual è la questione? Qual è la questione su Esposito? La questione è che l'Esposito ha detto non poteva non sapere perché. Esatto, è stato condannato perché sapeva. Perché non si condanna mai su perché uno non potesse non sapere. No, l'ha riferito puntualmente, si informi perché è così, che non potevano sapere che gli è stato detto, non perché questa deduzione fosse una cosa logica da quelle che erano le carte del processo. Quindi? Non poteva non sapere perché gli è stato detto. Allora Coppi è intervenuto a dire come? Noi non sappiamo niente, chi ha detto questa roba qui? E allora bisogna frugare lì, perché lì sta l'inghippo. Va bene, sta ripetendo quello che ha detto prima senza che ci si capisca molto. Secondo me Marco è uno di quelli della teoria del complotto, che questa intervista di Esposito rischia di far saltare la sentenza, la credibilità della sentenza, e quindi c'è da capire perché l'ha fatta. L'ha fatta perché possiamo dire che Esposito è un cretino? No, senza offendere nessuno. Io me la sento di dirlo. Però mi sembra un po' perché... troppo semplice come lettura, che sia solamente questo. È la mia lettura. Cioè, è cascato in questa cosa dell'amico giornalista che gli ha fatto l'intervista e lui prima ha smentito, poi... E niente, è rimasto fregato in questa cosa qua. Questa è la mia lettura. Emanuele da Roma, buonasera. Sì, salve, buonasera. Io intanto mi volevo complimentare con un ascoltatore precedente, Enzo, se non mi sbaglio, perché secondo me ha detto una cosa molto intelligente sui media e mi permette di rilacciarmi a quello che volevo dire io, perché io volevo riprendere un discorso che avevo sentito all'inizio della trasmissione, cioè quello sulla questione della legge contro l'omofobia e in particolare sullo sfruttamento, che secondo me è abbastanza squallido, della morte di questo ragazzino che si è suicidato perché discriminato, insomma, che si sentiva messo sotto accusa. E questa cosa dello sfruttamento di questa notizia è un vulnus che sta mettendo fuori la stampa in questo momento. E faccio un esempio molto pratico. 3 anni fa io sono stato aggredito a Piazza del Popolo dagli skinhead, dai nazi skin. Mi presento ai carabinieri, i carabinieri, io col naso sanguinante, insomma, me la sono cavata benino. I carabinieri mi dicono non le possiamo fare niente, giri armato. Questa è la risposta dei carabinieri. Mm. E poco tempo dopo su tutti i giornali uscì la notizia che un paio di ragazzi gay erano stati aggrediti, se non mi sbaglio, dalle parti del Collegio Romano, e dagli sempre dei soliti nazi skin. E la cosa è stata messa su tutti i giornali come una delle tante aggressioni omofobe. Non so se ricordate l'estate, se non mi sbaglio, del 2010 fu che ci furono i petardi a Gay Street, eccetera. Vabbè, la sua aggressione non ha avuto rilevanza sui giornali, quella dei gay sì. Questo questo succede, perché io non voglio, cioè non è soltanto che ci sono figli e figliastri, e questo è vero, e la legge sull'omofobia. E allora che cos'è anche? Ma perché quell'aggressione invece era un regolamento di conti fra Sharp, cioè skinhead di sinistra, e Nazi Skin, cioè skinhead di destra, e è stata fatta passare sulla stampa come un'aggressione. Vabbè, questo vuol dire che allora il giornalista non aveva capito la notizia, questo sarebbe più grave. Può darsi, si sbaglia anche. Comunque è chiaro quello che lei voleva dire, Emanuele, non so se voleva aggiungere qualcos'altro, però... Perché questa sperequazione tra il cittadino omosessuale e il cittadino etero finisce per diventare una vecchia, cioè da una oppressione dell'omosessuale che c'era negli anni passati finisce per diventare invece un figlio e figliastro all'inverso. Vabbè, non per mi cui... sembra che siano più tutelati gli omosessuali e le rese piuttosto che i non omosessuali. Scusi, Emanuele, il fatto che la sua aggressione, a me dispiace, non sia finita sul giornale, non è che questo è un diritto quando uno viene aggredito di finire sul giornale, è una cosa che ha a che fare con la rappresentazione che i giornali danno della realtà, su cui si può discutere, perché lei su questa ragione, i giornali vanno dietro alle notizie e a volte non si capisce bene perché e per come, però non è che il fatto che... Sì, ho capito, ma il fatto che lei non sia finito sul giornale non è che lei ha tolto un diritto, non c'è la persecuzione nei confronti degli omosessuali. E non mi sembra un motivo sufficiente per quindi non fare la legge sull'omofobia, perché allora è meglio che nessuno sia tutelato perché non è stato tutelato lei durante una rissa. È il contrario, e cioè tutti dovrebbero essere tutelati. Ma certo. E non ci dovrebbe essere un aggravante perché quella persona che è stata colpita è un omosessuale, mentre invece il cittadino che non è omosessuale non ha delle aggravanti. Va bene, questo è il suo punto di vista. Ma l'aggravante però... Invece la legge va nella direzione opposta per una serie di ragioni che non stiamo a spiegare qua. Grazie. Va bene. And now the good news. Per il secondo anno il comune di Capannori in provincia di Lucca ha adottato il bilancio partecipativo. I cittadini sono chiamati a scegliere quali opere pubbliche realizzare con una cifra di quasi 500.000 euro. E quando si tratta di scegliere, i cittadini non hanno dubbi: scuola e ambiente. Unica controindicazione: al bar con gli amici non ci si potrà più lamentare con il sindaco. Riprendiamo con Giovanni che ci chiama da Firenze. Buonasera Giovanni. Sì, buonasera. Prego. Senta, io mi volevo riallacciare all'intervento di quel signore che parlava dei cassi integrati ed era entrato in quel discorso. Oh mamma, quello che non sono riuscito a... Gabardini si era infoiato ma non si era capito poi benissimo dove volesse arrivare. Ascoltate. Esatto, cioè... Lei invece ha capito dove voleva arrivare. Ma è semplicissimo, cioè si tratta semplicemente di abbattere i costi di produzione di qualsiasi bene, che sia un'auto, che sia una scarpa, che sia un oggetto qualsiasi. Ora, è un discorso che sarebbe fantascientifico farlo accettare ai sindacati. Si tratterebbe molto più semplicemente di abbassare quelli che sono i costi del famoso cuneo fiscale, no? Far pagare meno la manodopera. Le tasse sul lavoro? Sì, però sono due cose diverse. Cioè abbassare le tasse sul lavoro o abbassare gli stipendi. Istituzionalizzare la cassa integrazione pagando 800 euro al mese anziché 1.500 facendo lavorare, questo non ha senso, capisce? Allora, perché paghiamo questi 800 euro così a fondo? Semmai sa cosa si potrebbe fare? Si potrebbe chiedere, visto che se sono in cassa integrazione vuol dire che queste aziende in quel momento non devono produrre perché c'è sovrapproduzione, semmai si potrebbe pretendere, anche se i sindacati sono contrari, non importa, che chi è in cassa integrazione prende 800 euro, invece stare a casa a girarsi i pollici, fa dei lavori socialmente utili per il comune. Bravissimo. In cambio del locale. Questo sì. Volevo dire, sì. Cioè, potrebbero essere resi, darsi disponibili oppure anche essere obbligati per mezza giornata. Questo non abbassa i costi di produzione delle merci, non ho capito quello io. No, ma infatti è per questo che il discorso dell'ascoltatore prima non filava, secondo cioè, me. Il prezzo al chilo della macchina, che è appunto tra i 5 e i 7 euro, come lo si abbassa? Sì, però se per un periodo ora ci vorrebbe ci vorrebbero dei tecnici. Che sono ferrati. Ecco, non ce l'abbiamo questi tecnici, quindi diciamo che la rimandiamo. Dai, grazie Giovanni. Aspettiamo un tecnico. Aspettando il tecnico. Adesso andiamo ad Angelo che ci chiama da Caserta. Buonasera. Oh, buonasera, senta, mi scusi. Io ho chiamato per una cosa in particolare. Praticamente vorrei parlare un attimo di questa piccola crisi di governo che poi piccola per modo di dire, tra Letta e Berlusconi. Io penso che la loro idea è solo quella di trovare una scusa per andare alle elezioni il prima possibile. Uno che è Letta dirà che la colpa è di Berlusconi che ovviamente non ha voluto dare spazio al governo che si sta chiaramente mettendosi un attimo da parte con il fatto della civiltà politica. Ma perché secondo lei vogliono tutti e due andare di nuovo alle elezioni? Sì, secondo me sì. Praticamente Berlusconi dirà che è colpa di Letta perché non voleva togliere l'IMU. E Letta dirà che è colpa di Berlusconi, perché con questa storia della gibità politica ha dovuto, ha fatto cadere il governo. Va bene, è chiarissimo. Ma perché secondo lei vogliono tornare ad elezioni? Non mi sembra proprio perché, un gran momentone. Lo so, però ovviamente lo sanno che non nessuno dei due potrà averla vinta, perché l'IMU sono 4 miliardi che non sanno dove prenderli. E Berlusconi ovviamente con una sentenza passata in giudicato non può permettersi di superare la legge trovando questa condizione. Soprattutto non si può candidare in questo momento, quindi mi sembra strano che desideri tantissimo andare ad elezioni. Lo staremo a vedere come va a finire. Potrebbe anche darsi che l'IMU viene riformata ma non cancellata, così che il PDL possa dire che non c'è più e il PD possa dire che non è vero. Grazie Angelo. Adesso vogliamo, come ogni sera a questo punto, lasciarci con una bella storia. Questa storia qua ha a che fare con la fiducia, con le banche e con un progetto che sta arrivando anche in Italia. Potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Allora, salutiamo intanto Enrico Longo, che è il presidente del comitato promotore IAC Italia, sottotitolo La banca senza interessi, così capiamo di cosa stiamo parlando. Buonasera Longo. Buonasera, buonasera. Allora, ne avevamo parlato qualche tempo fa, si può fare nell'appuntamento del weekend, che tra l'altro poi a settembre tornerà al mattino, credo, adesso poi vedremo come e perché, e lo riproponiamo anche in questo spazio, perché è una bellissima storia. Intanto, voi siete venuti a conoscenza di questo progetto che in Svezia esiste da tempo, la banca senza interessi, dalla trasmissione televisiva, cioè avete visto la TV e avete detto, bella idea, la facciamo anche in Italia. Sì, è andata proprio così. Nel maggio 2008 un servizio di Giorgio Simonetti su Report, Direi 3, e così alcune persone che poi si sono messe in rete e pian piano sono cresciute hanno detto sì, bella idea, dobbiamo farla anche in Italia. Come funziona in Svezia la banca senza interessi? Ma funziona in una maniera molto semplice, è una banca che in realtà è un grande progetto di emancipazione economica che punta a riportare l'economia e la finanza ad una dimensione direi umana. Ed è un progetto formato da un gruppo di persone, la chiamano la banca dei soci, in svedese IAC Medlemsbank, che opera come si diceva dagli anni 70, e in cui le persone attraverso questo strumento fanno circolare il denaro tra di loro, perché questa banca non applica interessi, questa banca è una banca no profit, cioè non deve remunerare gli azionisti e quindi può permettersi di offrire i propri servizi a basso costo, e soprattutto è un istituto di credito cooperativo che finanzia solo l'economia reale e non opera nei mercati finanziari, quindi come dire, tagliata su misura sulle persone. Quanti sono gli associati in Svezia di questa realtà, tanto per dare anche un'idea, una dimensione? La dimensione in Svezia sono 38.000 soci. Beh, quindi mica 38.000 poco. Utenti, sì, è una banca di piccole dimensioni in realtà se guardiamo i grossi gruppi bancari, ma ha già un discreto successo. E al vantaggio che uno può aderire se crede e se aderisce diciamo a questi principi. Voi adesso state facendo di tutto, state facendo i documenti, vi state preparando a poter operare in Italia, perché ci vogliono 1000 autorizzazioni giuste, tra l'altro, la Consob e quant'altro, e recentemente avete superato uno step. Sì, recentemente a maggio siete? Sì, abbiamo superato uno step decisivo per noi, che è stata l'asseverazione, ossia l'approvazione, la certificazione del nostro business plan da parte di un revisore legale dei conti. Quindi superato questo, in queste settimane stiamo terminando i documenti da depositare presso Consob, dopodiché attenderemo la prima delle, in realtà non sono 1000, sono un paio di autorizzazioni, sì. Quella di Consob prima e poi in futuro quella di Banca d'Italia, e vedremo un po' che cosa succede, insomma. Quando pensate che la banca senza interessi potrà operare anche in Italia? Avete fatto una previsione? Sì, noi abbiamo fatto delle previsioni, stiamo stimando ancora un annetto e mezzo, un paio d'anni di operatività, o evidentemente dipenderà anche molto dalla risposta che daranno le persone, quindi sì. Dal tempo che ci metteremo a raccogliere il capitale minimo necessario per costituire questa banca popolare Yakitalia. Come si fa se uno vuole aderire, se ha sentito l'intervista ed è interessato, insomma, a entrare in questo vincolo, diciamo, di fiducia, nel quale poi si fa parte di una banca che ti presta i soldi, alla quale tu presti i soldi senza il meccanismo degli interessi? Ma in questo momento, ovviamente, non avendo ancora avuto la prima autorizzazione, sì. non possiamo... C'è un comitato promotore, cosa c'è? In questo momento esistono un'associazione culturale che si occupa di diffondere il progetto e di creare eventi e un comitato promotore che è quello che tecnicamente porta avanti l'opera di costituzione. Quindi, non essendo ancora partita la raccolta del capitale sociale della futura banca, in questo momento chi vuole darci una mano può aiutarci a diffondere attraverso i propri mezzi il progetto, può aderire alla campagna di raccolta di donazioni che come associazione culturale abbiamo lanciato per pagare le spese di costituzione, perché noi siamo un gruppo di persone, appunto, che con i propri mezzi e sì. tutti insieme stiamo cercando di costituire. Dove? Ma c'è un indirizzo, un account, Facebook, un qualcosa? Certo, c'è il sito www.yakitalia.it e da lì poi si può accedere a tutte le piattaforme social network, Facebook, Twitter. YAK si scrive J-A-K? J-A-K, sì, YAK è un acronimo che in svedese vuol dire terra, lavoro, capitale, appunto, un ritorno all'economia. E avete mantenuto l'acronimo svedese? Abbiamo mantenuto l'acronimo svedese. Il marchio di fabbrica? Ah, vabbè. Sì, sì, ce l'hanno concesso i nostri amici svedesi con i quali siamo in contatto e con sì. i quali abbiamo una lettera di intenti firmata con la quale ci supporteranno in questo grande progetto. Ma siete i primi che provate a esportare dalla Svezia YAK o c'è anche in altri paesi? No, non siamo i primi, per una volta in Italia possiamo dare una buona notizia, siamo quelli più avanti dopo sì. la Svezia. Il progetto esiste già in Danimarca e in Germania, è operativo come cooperativa però, non come gruppo bancario. Bene. E poi in realtà in questi ultimi anni si è diffuso molto in tante nazioni d'Europa, anche dell'Africa e degli Stati Uniti. Dell'America, in Canada per la precisione. E benissimo. Sta cominciando ad avere un buon successo in molti punti del pianeta. Complimenti, grazie per avercelo raccontato ancora una volta Rico Longo, YAK Italia, una bella iniziativa. Sai com'è, le banche sono sempre nel mirino quando si parla della crisi, eccetera. Qua abbiamo un'iniziativa straordinaria, poi vedremo se ce la farà, certo. Perché non è mica facile. Infatti, mi sembra difficile. Allora, un ringraziamento a Riccardo Bucciero, Barbara Bianchi in redazione, Roberto Scaltritti in regia, Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, ci ritroviamo tutti domani. Sì, io saluto anche chi ci ascolta in podcast. Buona serata, buona serata. Sì!